fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. È il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto, per carità. Il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Il Presidente del Consiglio si comporta da emerito buffone, dice una cosa e ne fa un'altra. Questo è il modo di agire del Presidente del Consiglio, perché nel momento in cui dici che vuoi rendere la RAI indipendente, non costringi i tuoi parlamentari a nominare tutte persone che sono all'interno del partito politico, sono delle appendici ai partiti. Il caso RAI, nominata Monica Maggioni presidente, ma intanto siamo alle prese con i vecchietti, i pensionati, quattro pensionati che forse dovranno rinunciare all'incarico perché da pensionati non si può lavorare per le aziende pubbliche. Siamo però, buonasera da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, ma siamo emozionatissimi anche perché da c'è Dario Ricci, special guest. Grazie ragazzi, grazie ospite, vi perché racconto qua si ultimi, fa la storia. Vai. gli ultimi 80 metri della finale mondiale degli 800 stile libero. C'è Gregorio Paltrinieri, altro che vecchietto, questo 20 anni da Carpi si sta giocando un oro mondiale testa a testa con il cinese Sun. È stata una gara spettacolare, anche se non su ritmi altissimi. Gregorio sempre alle spalle di Orton, il grande australiano favorito, e poi anche in testa. Ora la rimonta di Sun è un testa a testa, 4 centesimi di vantaggio all'ultima vasca per Sun, ma mancano veramente pochissimi metri. Si allunga il cinese, allunga Sun, ma Paltrinieri c'è, prova a restare in scia. Si allunga ancora Sun, mancano 8 metri, sarà oro per Sun, ma uno splendido argento per Gregorio Paltrinieri. Sun, Paltrinieri, vediamo il terzo, anche se ci interessa relativamente proprio Orton, che di Paltrinieri tra l'altro è molto amico, visto che si sono allenati insieme in Australia per un mesetto quest'inverno. La Cina si allunga, ma a metà era in vantaggio Paltrinieri. Sì, però all'inizio era dietro e quindi facendo una media, tra l'altro mi hai fatto sognare perché l'abbiamo vista tutta la gara, ma avevamo deciso di mettere solamente l'ultimo minuto. Ero emozionatissimo, pensavo si vincesse, invece no. Cos'è successo? Comunque parliamo del cinese, andava più forte. Yang Chung è stato molto bravo. Volevo un commento più tecnico adesso, noi non siamo un programma sportivo, non è che puoi dire il commento. Il cinese andava più veloce, fammi dire la frase tecnica: ha distribuito meglio le forze. Ok, direi che con questo un bel secondo posto, seconda medaglia d'oro oggi per l'Italia. Medaglia d'argento. Pellegrini, Paltrinieri. Poi alle 20:45 c'è anche il 7 rosa in acqua per una semifinale mondiale nella pallanuoto contro l'Olanda. Noi non siamo in onda purtroppo, però se vuoi puoi telefonarmi per darmi i risultati. Vi tengo aggiornati almeno nelle edizioni dei GR. Grazie Dario Ricci, ciao. Grazie ciao, Dario. Il neo presidente, anche se deve esserci ancora la formalizzazione, Monica Maggioni, presidente Rai. E come ce l'ha fatta? Lavorando come un mulo. Non so se sia una risposta politically correct, però la verità è che lavorando come un mulo. Però anche altre sue colleghe immagino che avranno lavorato tanto, e però le porte sono rimaste chiuse. Ma quello è una, come dire, è una cosa che capita anche a un sacco di uomini, e adesso non esageriamo, cioè non è che le porte restano chiuse solo per il direttore di donna, ci sono un sacco di uomini. Vabbè, questa era la Maggioni poi... quando era diventata presidente di Rai News, direttore di Rai News 24. Certo, perché considerata già da un po' di tempo una delle donne più potenti al mondo. È stata invitata anche ad un forum di quelli di Bilderberg, sai, quell'associazione, quella roba. Stai toccando un tasto pazzesco. Comunque. Più potenti al mondo occupandosi di Rai News, non me l'aspettavo. Sono contento per Rai News intanto. Comunque, lei è il presidente designato, adesso ci sarà la formalizzazione, ma il tema resta tutto quello dei quattro consiglieri su 7 nominati ieri. Diaconale, Mazzucca, Freccero e Guelfi, che essendo pensionati in base ad una legge di questo governo, tra l'altro la legge Madia, non possono prestare servizio a pagamento per aziende di Stato, e quindi si sta discutendo se farli lavorare a gratis. Ma richiamiamo Freccero. Freccero ha detto che ha detto una cosa bellissima: pur di fare uno sgambetto per a Renzi, fare un dispetto al PD, sono pronto anche a fare il consigliere di amministrazione della Rai gratis. Diagonale ha detto: ma sarebbe strano lavorare gratis. Mazzucca per ora non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Beh, su questo sarebbe strano aspetto. Lavorare gratis vuol dire che non ha mai fatto uno stage nella sua vita. Sentiamo l'analisi di Feltri, vai. Feltri. Si sta facendo una cosa secondo le regole e i modelli antichi, i partiti stanno decidendo tutto, ma nessuno che abbia un progetto di Rai per nominare un direttore generale che sia veramente in grado di sistemare molte cose in Rai, è necessario dargli appunto un progetto. Vediamo dove dobbiamo andare. Quando abbiamo deciso la meta, scegliamo la persona più idonea per portarci a quella meta. Sembrava, sai, per dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare, Totò e Peppino. Per la prima volta nella storia, credo, Feltri la pensa nello stesso modo del segretario CGIL Camusso. Siamo di fronte a una perfetta spartizione politica del Consiglio d'amministrazione, quindi ancora una volta tanti annunci perché tutto cambia e tutto resta esattamente come prima, solo che cambiano i soggetti che rappresentano. Però io credo che non sia di particolare buon gusto mettere gli spin doctor delle proprie campagne elettorali nel Consiglio d'amministrazione della RAI. Beh, è un po' quello che dicevi ieri tu, Alessio. Sì, lo spin doctor è Guelfo Guelfi, che ha curato la campagna elettorale di Renzi, prima in provincia e poi in comune, e questo, diciamo, è il suo più grosso merito. Sì, sentiamo altre voci, vai, sempre sulla RAI. La sua discolpa, se si può dire, sì, è che Renzi di spin doctor credo che ne abbia 25, 105, 2000, perché ogni volta si dice lo spin doctor di Renzi, quindi forse a un certo punto... Dici che il problema ormai è trovare qualcuno che non sia stato spin doctor. Lo spin doctor di Renzi. Fedriga, Lega e poi Minzolini. L'Istat certifica che c'è il massimo storico della disoccupazione giovanile, massimo storico della disoccupazione generale. Il più grande impegno del Presidente del Consiglio è quello di mettere i suoi uomini, che sono degli yes men dentro il Consiglio d'amministrazione della RAI, per cercare di controllare l'azienda pubblica. Appena sceso giù dal furgoncino. Secondo me, se uno vuole rialzare le sorti di questo governo della RAI, deve volare molto alto, quindi non essere direttore del Corriere della Sera, e su questo io penso che uno possa ragionare. Dove lo metto? Volare alto, dice Minzolini. Il nome del nuovo presidente è Monica Maggioni. Non so se è volare abbastanza alto. Una donna, sicuramente, perché Renzi ha in mente per la casella chiave del direttore generale un uomo, Antonio Campodall'Orto. Quindi, diciamo, si compone così anche la parità di genere. Sbaglio, è il primo presidente donna della RAI? Non lo so. Io penso di sì, ma adesso lo verifico. 800 24 0024. Sentiamo anche un Emiliano. Si continua a parlare del dibattito sul mezzogiorno arretrato d'Italia, e Emiliano che non la pensa esattamente così. Sentiamolo. Come la classifica sulla qualità della vita? Sono tutti convinti che si viva molto meglio a Milano che in Puglia, ma è una classifica sballata, lo sanno tutti. Si può fare. L'attualità anche d'estate. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. È l'uomo immagine della RAI, un uomo immagine della RAI, anche se negli ultimi tempi ha cambiato strada. L'abbiamo conosciuto per le sue corrispondenze dalla patria della BBC, ha lavorato per un'altra importante televisione straniera, è l'uomo giusto stasera per parlare del nuovo consiglio di amministrazione della RAI. Antonio Caprarica, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Come sta? Va bene, insomma, un po' scosso come tutti. Voi avete detto perché? Che per la prima volta Camusso e Feltri erano d'accordo, sì. Credo che sia anche per me la prima volta che sono d'accordo con tutti e due. Hai visto? È un ottimo trio, quindi. Sì, speriamo che sia un tridente d'attacco, ma ho i miei dubbi. Esatto, diciamo. Intanto devo correggermi, ovviamente non è la prima presidente donna della RAI, perché c'è stata Letizia Moratti nel 94 e poi lei Lucia Annunziata, e la uscente era la Tarantola, quindi chiedo scusa per prima. Mi scusi, l'ho interrotta. No, niente. Sa, questa cosa delle garanzie è stupenda. Il problema non è se sarà la prima presidente donna. ovviamente non lo è. Il problema è se sarà la prima presidente di garanzia, cosa su cui è lecito avere qualche dubbio. Vabbè, lei sembra più interessante questa domanda. Lei la Maggioni ovviamente l'ha conosciuta perché insomma è una collega. Che ne pensa? Sì. Ma adesso, ma secondo lei, ma lei conosce qualcuno di noi che parla male di un altro? Che parla male di un altro? No, è impossibile. No. Però non posso non chiederlo, conosco, perché è stata appena nominata. No, conosco Monica, è una brava giornalista, naturalmente, una giovane collega ambiziosa, ambiziosissima, sin da quando ha messo piede in Rai, ha fatto bene il suo lavoro e un maligno potrebbe dire che poi, in fin dei conti, insomma, l'approdo alla presidenza della Rai è il naturale sviluppo della carriera di un giornalista embedded, no? Inquadrato prima in Iraq con gli americani e inquadrato anche in Italia con non so bene con chi, ma quasi con tutti, perché vedo che c'è un larghissimo consenso, sì, intorno a noi. Già mi vedo il complotto, perché lei fu invitata al famoso forum di Bilderberg l'anno scorso, sì, e ci fu un'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle, e quindi già mi immagino adesso... Beh, ma secondo me anche il Movimento 5 Stelle forse sarà contento e felice. Vede, il problema pensavo sarà invitato al Bilderberg e faceva più ridere. Ma secondo me il problema fondamentale ormai è questo qui. Cioè, la questione è chi sarà scontento, no? Io ricordo che quando il governo Berlusconi nel 2009 mi fece fuori dalla direzione del giornale radio di Radio 1, i primi a brindare furono quelli che teoricamente avrebbero dovuto fare molto chiasso, cioè l'opposizione di sinistra. In realtà erano più contenti loro dei berlusconiani, perché si toglievano dalle scatole uno che non faceva sconti, cioè che si era messo in testa della BBC anche alla radio italiana. Naturalmente gli ascoltatori erano molto contenti, tant'è che io lasciai Radio 1, Radio Leader, prima radio italiana, e poi negli anni successivi scivolai dal settimo all'ottavo posto. Perché? Perché la gente capisce perfettamente alla fine dei conti se la garanzia è verso chi ti ha messo in quel posto, oppure la garanzia la eserciti verso il pubblico e gli ascoltatori. È tutta lì la questione. Io potrei fare la battuta che noi di Radio 24 ringraziamo. No, c'è stato tra l'altro anche un passaggio, sono cambiati i metodi di rilevazione, però è vero. Infatti consideravamo Radio 24 una pericolosa concorrente, ma certamente ricorderete che in quegli anni, diciamo, insomma, vincevamo noi, ecco, questo era il punto, vinceva la prima radio della Rai. Però ripeto, perché secondo me il pubblico le cose le capisce, anche se poi alla fin dei conti adesso è estate, eccetera, questa faccenda succede ogni tre anni arriva qualcuno che dice che la Rai sarà un posto meraviglioso, una terra di favole. La BBC ogni volta si cita, sì, ma nessuno la vuole la BBC. Ma se io mi mettessi un giorno, credo che lo farò, racconterò le reazioni dei signori, dei leader politici che intervistavo una volta in 15 giorni, non ce n'è stato uno che non mi abbia fatto scivolare dei bigliettini per protestare perché le domande erano troppe cattive. E questo vale per destra, sinistra e centro. Finché succede una cosa del genere nessuno protesta, e ho l'impressione che, sa, di donne presidenti della Rai ce ne sono state già numerose, sì. La questione è che spero vivamente che Monica non faccia la garanzia come l'ha fatta la Taranto, diciamo, ecco. Come l'ha fatta? La Taranto, la sua, sì, immediata, sì, certo, non avevo sentito. La Taranto, sì, non l'ha fatto. Beh, insomma, questo basta chiedere in giro, insomma, non sarò io. Insomma, aveva tendenzialmente l'attitudine a dire: ah no, questo non ho titolo per intervenire. Sì. Questo era un motto, diciamo, ben noto in azienda, anche se si consumavano alcune delle peggiori nefandezze che si possono immaginare. Anyway. Però, ecco, lei giustamente dice: non voglio entrare troppo nel merito, no, di della Maggioni, cioè, però ci sta entrando, direi. È stato scritto. Ma non è vero, ma lei è un provocatore. Cioè. No, assolutamente. Hanno scritto molti giornali oggi, lo dicono, insomma, che la qualità media di questo consiglio di amministrazione è un po' bassa, però, perché l'assistente di un parlamentare, lo spin doctor, lo diceva lei, insomma, quindi? Beh, io questo adesso mi chiedete un commento su dei fatti e delle circostanze che sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, noi avevamo saputo dal Presidente del Consiglio che il nuovo Consiglio di Amministrazione sarebbe stato formato da specchiati personaggi sulla base dell'esame di curricula pubblici. Non lo so, a voi risulta che questa faccenda è successa, si è verificato così? No, a meno che non ci siamo distratti, no. A meno che no, non ci siamo distratti. Allora, o ci siamo distratti tutti quanti, oppure semplicemente il resto. Leggevo sul giornale stamattina, io trovo molto simpatico il dottor Guelfo Guelfi, nuovo consigliere d'amministrazione, perché ha detto, ma io stavo andando dal dentista stamattina, poi sono un ex tipo dell'operaio, insomma, vabbè, mi fa piacere questa cosa, poi mi occupo di comunicazione pubblica. Cioè, voglio dire, allora io non è che... Sì, un po' sconcertante, No, perché ho visto che il Presidente del Consiglio ha detto, dice no, vabbè, non è che dobbiamo mettere dei conduttori o delle archistar, insomma dobbiamo mettere degli esperti. Ecco, il punto è questo, abbiamo messo, ci sono degli esperti, e poi l'altro punto di nuovo fondamentale è, ma questa RAI così a chi serve, oltre che non solo al governo ma anche ai partiti politici che allegramente hanno partecipato con il governo al banchetto dell'ultima spartizione? Allora tutto è perduto o c'è ancora qualcosa che la RAI possa fare per restare in piedi in un mercato che vede l'arrivo di Netflix a settembre, in autunno, sì. Sky, Discovery? No, una cosa può farla, essere venduta. A cioè? Chi? A un privato? Ma certo, no? Ma scusate, non al proprietario di Agon Channel, ma però spiega, non quello, direi, sconsiglierei il trasferimento in Albania. Non proprio quello, Sconsiglierei il trasferimento in Albania, e in ogni caso consiglierei anche, cosa che io pensavo di aver fatto ma evidentemente non sufficientemente, un controllo accurato sulle credenziali dell'eventuale acquirente. Però secondo me la costruzione di un nuovo sistema televisivo in Italia è ormai una questione matura, e devo dirvi la verità, io davvero ero tra quelli che ci credeva che Renzi avesse in mente un'operazione di questo tipo, no? La fine della tripartizione, dei tre telegiornali che si raccontano il Vangelo quotidiano in modo diverso a seconda delle simpatie. Beh, sarebbe per una semplificazione caprarica, cioè fare una testata unica? Ma è chiaro, in tutto, ma questo non ha più nessuna... Una volta forse c'era una motivazione per questo in un'Italia di 40 anni fa, adesso c'è una testata unica che però abbia veramente una funzione di garanzia verso il mondo dell'informazione, certo, del suo complesso. Ma questo è scontato, è chiaro, se riduciamo e la mettiamo in mano, che ne so, al governo, allora non va bene. Scusate. Perché ieri sera, per esempio, Freccero, che tutto si può dire tranne che non se ne intenda di televisione, anzi sicuramente in questo CDA è l'unico veramente un grande esperto di televisione, invece su questa cosa forse si è già allineato, ha detto che sarebbe sbagliato ridurre le testate. Non capisco, non seguo le logiche di Freccero, diciamo, né degli altri autorevoli. Ma la BBC per esempio ha un'unica testata giornalistica? La BBC ha un'unica testata, ha un unico direttore delle news, ha un'unica testata con naturalmente World, la BBC World, che è una redazione a parte, ma comunque il direttore del news è un direttore unico e la redazione è una redazione unica. Sì, no, in realtà Freccero quello che diceva era che comprendeva il fatto che ci fossero diversi telegiornali con diverse specificità, non senza, diciamo, omettendo di sottolineare che in questo momento da noi le specificità sono i partiti, quindi sono le sensibilità. Esatto, e questo è erroneo, ovviamente. No, più che erroneo vogliamo dire che forse è lievemente ipocrita. Come la faccenda della pensione, insomma, no? Lo sa tutto il mondo. Ecco, lo sa tutto il mondo, perché lo sa tutto il mondo, lo ribadisco, perché ci sono concorsi pubblici, sì, che sono regolati dalla circolare Madia, emessa nel giugno dell'anno scorso. 2014. Perché questo, sì, è un punto importante, cioè i parlamentari italiani non conoscono le leggi che fanno, perché c'è una legge che impedisce a chi è in pensione di avere un incarico retribuito in un'azienda di Stato, eppure sono stati nominati quattro pensionati, è un cortocircuito, ma cosa succederà? Si troverà un escamotage. Ma secondo me è la prova che in Italia in realtà esistono due leggi, una per i normali cristi e una per gli amici degli amici. Sempre. Caprarica, lei pure ci diceva, no? Che è incappato in questa cosa qua. Ma sì, guardi, io un anno fa, quando si è reso vacante l'incarico di direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Londra, sì, ritenendo di avere qualche numero, insomma, se non altro per aver passato 15 anni in quel paese, per conoscere tutte le personalità di un certo peso là dentro, per aver scritto una decina di libri sull'Inghilterra e sugli inglesi, ho avanzato senza fare ricorso ad alcun amico il mio curriculum, e i solerti funzionari del Ministero degli affari esteri a cui compete la nomina mi hanno fatto presente che avendo 64 anni e essendo pensionato non potevo assolutamente adire a un incarico dirigente nel settore pubblico o connesso al pubblico. Evidentemente, ripeto... quindi per lei la tagliola è scattata regolarmente. Come prevede che vada a finire, conoscendo gli ambienti Rai, ma anche la politica? Si troverà una soluzione tipo senza stipendio, con mezzo stipendio? Ma mezzo stipendio, un quarto, un terzo, magari lo devolviamo a qualche onlus, ma adesso diciamo siamo un paese pieno di fantasia, no? Adesso non è che ci fermeremo perché c'è una stupida legge del 2014 che sentenzia che a 65 anni pensionato non devi più fare il dirigente dello Stato. Questo vale, ripeto, per i normali cittadini, ma se abbiamo un gruppo di 4, 5, 6 o 7 eletti nel senso di unti del Signore, diciamo, che da tutti i partiti vengono benedetti all'interno di questo sinedrio, di questo importante consesso, non penserete mica che mettiamo in crisi la RAI perché ci sono 4 pensionati che sono lì in violazione di legge, no? Senta, quello che forse la RAI non deve temere è la concorrenza di Agon Channel, perché come... Guardi, al di là guai giudiziari, no? Poi lei ha lasciato. Ma lei sa che io me ne sono andato subito, quasi subito. Non per i guai giudiziari, no, prima che scoppiassero quelli, sì, per questioni proprio di contenuto. Se avessi avuto sentore, diciamo, di quello che poi i guai giudiziari hanno messo in luce, non avrei manco preso, l'ho già detto pubblicamente, non avrei manco preso un caffè con questo signore. Ciao. Però io sono andato via perché ho verificato nei fatti l'impossibilità di costruire una televisione, che era un progetto a cui credevo. Avendo la responsabilità delle news, ma l'impossibilità di fare le news con l'uso della diretta, che sapete è una cosa che è entrata in vigore ormai da qualche decennio, da qualche tempo, anche sì, nelle televisioni regionali, con tutto il rispetto per le televisioni regionali, mi sono reso conto che non c'era nessuna intenzione di tenere fede al progetto magnifico che mi era stato illustrato. Comunque, e quindi ne ho ricavato le, sì, le conseguenze e me ne sono andato senza tante. Le do questa notizia in tempo reale, che è, diciamo, si allinea al Movimento 5 Stelle a quello che diceva lei poco fa, proprio della Maggioni: non è un presidente che può garantire l'indipendenza, l'ha detto, l'ha scritto poco fa Carlo Sibilia. Il Movimento 5 Stelle fa parte del direttorio, tra l'altro, dei 5 che decidono qualche cosa all'interno del... Bene, allora abbiamo accertato che con i 5 Stelle Maggioni non è embedded. E invece Caprarica... va d'accordo con 5 Stelle, non è embedded con nessuno, nemmeno con i 5 Stelle. Purtroppo nemmeno con i 5 Stelle. Grazie mille. Buona serata. Buona estate, arrivederci. Interessante l'intervista di Caprarica. Molto, anche perché è stato bello, perché all'inizio ho detto: ma ci mancherebbe che un giornalista parla male di altri giornalisti. Non posso dire niente. Poi ma se non tutto. Lo fermavamo, direi che stava andando a zero. Se la mangiava, chiunque, se la mangiava la Maggioni. 800 24 00 24, ci sentiamo tra poco. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo. Buonasera da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Vabbè, c'è una dichiarazioncella, così, una notizia scrocchierella, come direbbe qualcuno di noi, di Roberto Speranza, capogruppo, ex capogruppo del PD, membro a questo punto della minoranza del PD, che dice: un'ottima professionista Monica Maggioni, ma il mio nome preferito sarebbe stato Walter Veltroni. Sempre per continuare, ma scherziamo, che, non so, tutti, cioè, i politici, parliamo della solo politica, politici. Non deve entrare alla RAI, adesso mettiamo Veltroni, io lo so, Speranza, ma che dici? Ma 800 24 00 24. Volevo rispondere a un sms di un ascoltatore che dice: avete iniziato una trasmissione con un esagitato che grida il presidente del consiglio è un buffone. Ci tengo a precisare che era del Movimento 5 Stelle, non eravamo noi esagitati che urlavamo quello, magari non si era capito perché è un audio registrato, è semplicemente, diciamo così, dovere di cronaca. Maurizio da Biella, buonasera, benvenuto. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire, tanto di rispetto al signore che parlava prima, che sì, non viene più... Cioè, la legge che hanno fatto su chi è in pensione, sì, specialmente è giusto che stia a casa, ma è giustissima. Io dico questo, non dico, ci sono dei ragazzi disoccupati, non dico di metterli a un posto dirigenziale, ma chi è prima di quel signore che non è in pensione va al loro posto, piano piano si va giù nella scala, si arriva sotto che sono 4 ragazzi anche a fare portacarte, vuol dire 4 posti in più. Adesso mettere una pensione, sì, bella pensione, penso, sì, sì, tranquillo. No, ma comunque siamo nel solco del lasciamo spazio ai giovani, anche se magari nel ruolo di consigliere di amministrazione della RAI non metterei uno di 20 anni o una delle prime esperienze, però ma non siamo neanche nel solco, perché quattro sono pensionati, quindi c'ha assolutamente ragione lei, giustamente. Siamo più vicini ai settantenni che non ai quarantenni, insomma, e quindi c'ha ragione. E poi soprattutto, esatto, se è illegale, è illegale, insomma, c'è poco da fare. Ecco, ma volevo dire un'altra cosa, posso? Certo. Ecco, sono curioso di vedere che soluzione troveranno. Sì. Un attimo. Sì. Ecco, guardi, io ho una testimonianza diretta, un parente che era nei Carabinieri. Sì. Già anni fa era di stazza a Bologna, ha fatto l'allievo Carabinieri. Lui, come altri, ma questo lo fanno tutti gli altri, tutti gli anni me l'ha raccontato, che hanno la faccia da ragazzino, le mandano in borghese le fermate dei pullman, da Riccione a Rimini a Cattolica. E queste pasticche, queste cose, non solo nella discoteca, per strada le trovi come fare benzina, sono indagini fatte dai Carabinieri che risultano. Però non so, sì, le trovi anche dentro, cioè, la discoteca. Sì, però attenzione, anche fuori mi sembra interessante invece la testimonianza, perché giustamente non si risolve il problema chiudendo le discoteche. Assolutamente, io vi ringrazio. Noi ringraziamo lei e le auguriamo un'ottima serata. Altrettanto, grazie. No, sono curioso di vedere che soluzione troveranno sulla questione della pensione e del fatto che questi quattro consiglieri non dovrebbero svolgere quell'incarico, al di là del fatto che è proprio lunare che questa cosa sia avvenuta, cioè questo, come vogliamo chiamarlo, cortocircuito, no? C'è, cioè, una legge approvata da questo Parlamento e membri della Commissione di Vigilanza sono parlamentari anche loro. Non mi viene una parola, ma giustamente, come dici tu, è una legge che è stata fatta l'anno scorso, insomma. Anche solo la memoria a breve termine poteva bastare. Quello su cui stanno lavorando, quello che abbiamo capito, è l'ipotesi di, diciamo, eliminare l'indennità. Quindi, però, Diaconale ha già detto, io lavorare senza stipendio, ma secondo me, vediamo, a parte Freccero, resto a fare direttore del Parco del Gran Sasso. Freccero ha detto sì, Guelfi non ha ancora commentato, ma Zucca nemmeno. Va bene, andiamo con un altro ascoltatore, Marco da Modena, buonasera. Buonasera, salve. Buonasera. Io chiamo per questo, secondo me si sta facendo un polverone enorme sulla RAI, fondamentalmente per nulla. Cioè, la RAI è un tema importantissimo, però io ho una visione un po' cinica da questo punto di vista. Se il governo o chi per lui riesce in qualche modo a captarsi benevolenze, chiamatela come volete, portare a casa un po' di consenso per quello che conta davvero, come la riforma del Senato o altre cose che stanno cercando di far passare, ben venga che lottizzino il RAI, dove tutto sommato è così da 50 anni e tutto sommato la rete sta in piedi e non mi sembra che sia un disastro. No, quindi, ma mi scusi, non ho capito in che senso che abbia del consenso. Nel senso che se si riesce, detta proprio papale, a spartire all'interno del consiglio di amministrazione, facendo contente tutte le varie correnti e sottocorrentine, che poi quando è il momento buono di votare la riforma del Senato, cioè lei dice, se in cambio a questa così, lottizzazione si riesce ad abolire il Senato, va bene così, questo sta va dicendo? Va benissimo così, cioè io firmerei adesso da cittadino se questa cosa passasse, anche perché sono ben altre le spartizioni e le lottizzazioni che fanno dei danni. Sul fatto che la RAI sia un disastro da 50 anni perché è un covo di partiti e partitini, c'è da ragione al signore che avete intervistato prima, non ricordo il nome purtroppo, sarebbe da vendere, Caprarica, da riformare da zero, però secondo me sulla lista di priorità di quei problemi che ci sono in questo paese, lo dico da giovane di 35 anni che ha davanti, giovane, da uomo di 35 anni che spera di avere davanti 40 anni di vita e di lavoro, sono altre secondo me, quindi sì, no, se i partitini fanno una battaglia sulla RAI per d'accordo poltrona, però è un po' sempre la solita questione di dire ci sono problemi più urgenti, comunque in questo momento è il consiglio di amministrazione della RAI la notizia e quindi commentiamo quella e diciamo un certo uso della politica. Prego. Non era una critica al commento, anzi è la notizia del momento e tutti i partitini e le correnti e ognuno tiene a dire la sua. E questo mi dà la sensazione che sia un tema sentito nelle varie correnti, nelle varie parti di partito, ognuno ha da dire la sua su questa figura, su quella figura, quindi è un tema che all'interno del mondo politico interessa molto, diciamo, forse molto più che ai comuni cittadini, da un certo punto di vista, perché poi fondamentalmente chi sia il nome che siede in quel posto di consiglio di amministrazione, il comune cittadino quasi non lo sa. Va bene. Ecco, quasi non lo sa, ma invece dovrebbe saperlo, perché noi speriamo sempre, ogni volta che si elegge un nuovo consiglio di amministrazione, che in realtà delle cose cambino. Poi siamo d'accordo d'accordo con lei che ci sono un altro tipo di problemi. Noi speriamo che passino le riforme anche senza la lottizzazione della RAI. Giustamente invece lei dice: vabbè, se la lottizzazione, se il prezzo da pagare per tutte le riforme è solamente la lottizzazione della RAI, l'accettiamo. D'accordo. Grazie, Marco. Grazie mille. Buona serata. Sappiamo come ha funzionato quando andavamo noi lì, cambia soltanto il metodo, la tipologia di sballo, ma insomma più o meno funzionava tra virgolette così. Dalle mie parti mi dicono gli esperti, in Friuli. Sì, mi dicono soprattutto coloro che insomma seguono tutto il tema delle dipendenze, che sono molti di più i ragazzini giovanissimi che si fanno di sballo con l'alcol, cioè scientemente il venerdì sera o il sabato si chiudono nella casa di qualcuno e passano tutto il tempo con la birra piuttosto che il vino. Ha appena presentato un disegno di legge per vietare l'ingresso in discoteca ai minorenni, anzi in realtà nei locali che chiudono dopo la mezzanotte, vietati ai minorenni. Buonasera al senatore del Nuovo Centrodestra, Carlo Giovanardi. Sì, buonasera, non nei locali da ballo, discoteche, nightclub. No. Quindi, la verità, per i nightclub il divieto è già in vigore. Quindi diciamo, per esempio, le birrerie sono escluse da questa cosa che lei ha proposto? Assolutamente sì. Guardi, la tipologia a cui guardo da anni, sì. Perché ricordo che dopo l'emergenza droga, prima dell'emergenza droga c'è stata l'emergenza strage del sabato sera, sì. Mi veniva proprio da pensare che i sedicenni che muoiono oggi, i diciottenni che muoiono oggi di ecstasy, potrebbero essere i figli dei 7.000 ragazzi che sono morti il sabato e la domenica notte in quei famosi incidenti che venivano alle 3, 4, 5 del mattino, perché tanti sono state le vittime. Sì, c'è quasi un salto generazionale da questo punto di vista. No, dico, c'è quasi un salto generazionale, tanto da far pensare a quello che diceva lei. I figli di quelli che sono morti nel 91, 92, 93, anzi, anche di quelli che sono morti addirittura nel 98. Allora, quello è un fenomeno che è stato affrontato, sì. Con la questione del nomadismo, i controlli notturni, diciamo che si è attenuato. Adesso c'è un'emergenza che è apparsa. Allora, a me sembra ragionevole che a 18 anni, quando uno acquista la maggiorità, è responsabile di sé. Ma ragazzi di 16 o 17 anni che perdono la vita, che non riescono neanche a arrivare ai 18 anni, e la perdono perché c'è poco, i locali li conosco, li ho frequentati tutti, sono stato lì fino alle 6 del mattino. Se uno per 3 ore balla sulla stessa mattonella agitandosi senza nessuna relazione, perché se anche urla con tutto il fiato che c'è in gola, chi ha 20 centimetri da lui non riesce a capire una parola di quello che dice. Più musica techno, che siamo a livello di un era de cosa, più luci psichedeliche. È lo sballo, cioè è un ambiente che è fatto per sballare. Poi, vabbè, si può stare in discoteca anche senza drogarsi, questo sì. Si può stare in discoteca per qualche ora anche senza drogarsi, ce ne sono tantissimi che ci vanno. No, una cosa diversa, che sì. Anche se non c'è la droga, sì. E anche se non c'è l'acqua, il fatto solo di stare 2 ore a saltare ossessivamente sulla stessa 3 ore, sulla stessa piastrella. Ma quello non c'è niente di male. C'è un bombardamento di suoni, già questo, come studiamo a suo tempo, erano dei fattori che determinavano gli incidenti, perché è chiaro che dopo 2 ore di questo trattamento, a parte i danni permanenti che venivano... Però qua si va in un altro campo, qua si va in un campo. Lei dice per i minorenni questa cosa, cioè secondo lei i minorenni non dovrebbero ballare per 2 ore di fila, Giovanardi? Non dovrebbe ballare. In un ambiente così, sì. Non ci va. Ci va quando compie 18 anni. Cioè senza droghe, anche se non ci fossero droghe, il minorenne non deve andare in discoteca. Stiamo parlando di locali che stanno aperti all'1, alle 2, alle 3, alle 4 di notte. Sì, sì. Stiamo parlando di after hour, cioè di quei locali che aprivano alle 5 del mattino e quindi richiamavano i clienti che avevano fatto la nottata a 100 km di distanza, magari a Modena, perché a Ravenna apriva poi alle 5. Allora, non mi sembra una cosa così lunare che i minorenni, i ragazzini, 16-17 anni, in questi locali non ci vada. Ma mi scusi, ma che cosa il povero ragazzo che è morto a 16 anni perché ha preso l'ex in quella situazione. Ma mi scusi, ma che cosa risolviamo in questo modo? Nel senso che se il povero ragazzo, come lo chiama lei, avesse avuto 18 anni, gli vietavamo le discoteche fino ai 21? Che nella mia cultura una vita umana salvata, una di un ragazzo salvata, vale di più di tutti gli affari del mondo. Intanto risolviamo quello. Però le voglio chiedere una cosa, c'è un modello, c'è un modello, serve sì, proprio a evitare, c'è un modello in Europa che lei ha seguito, cioè paesi, perché io mi sono andato a documentare, in effetti ci sono per esempio in Spagna ma anche credo in altri paesi piccoli in generale non ci sono divieti per un sedicenne di entrare nelle discoteche, per esempio non avviene ci sono paesi che hanno avuto nel periodo della guerra, no, ma glielo chiedo, lei si è ispirata a qualche modello? Risponda a me, ci sono paesi al mondo che hanno avuto tanti morti fra i giovani che venerdì e sabato notte, quanti li ha avuti l'intero esercito americano durante la guerra in Iraq? Sì, l'Italia, perché le assicuro, c'ho i dati e c'ho anche i nomi uno per uno, che noi nei 3 anni della guerra in Iraq abbiamo avuto tanti ragazzi morti quanto tutto l'esercito americano in battaglia in Iraq. Allora c'è un altro paese al mondo dove ci sono perdite di questo tipo? Non lo so, è lei che ha fatto la proposta di legge. Io le chiedo se si è ispirato a qualche paese europeo facendo questa proposta. Mi sono ispirato all'Italia, mi sono ispirato alla cronaca. Quindi a nessun altro paese europeo, cioè nessun altro paese europeo c'è questa norma? No, guarda, in Italia mi sono ispirato alla legge sull'alcol che già proibisce alle 3 di notte di somministrare alcol, sanziona chi amministra alcol dopo quell'orario, chiudi i locali. E poi che non ci siano controlli o ci siano pochi controlli è un altro discorso, ma già oggi in Italia per quanto riguarda la somministrazione del codice è in vigore una normativa che ad un certo orario proibisce di somministrarli, ci sono multe in caso che e la chiusura del locale nel caso della recidiva. Allora è proprio così lunare dire in un paese che a 16 anni non va in discoteca alle 3 di notte? No, ma non è lunare, non capisco l'utilità della questione, mi scusi. È quella di salvaguardare. Se il giovane che è morto lì, in quella discoteca, o altri che sono spopolati del fegato, o altri che hanno avuto lesioni permanenti. Perfetto, se non ci vanno, lei dice in discoteca non sarebbero morti. Ma se questo ragazzo si fosse drogato in parcheggio, lei chiudeva i parcheggi? Scusi, le ho detto che l'ambiente, per chi ci va come me lo conosce, nei parcheggi non si sta 2 ore sotto una musica tecnico assordante. Ma il problema è la droga o è la musica per 2 ore, mi scusi? Ma scusi, perché se va in quelle balli, in quelle sale, vedrà che per 2 ore. Ma io le conosco quelle sale, non è che non le conosco. Conosco anch'io, perfetto. Perché l'ho visto e ci sono molto stato. Bene. Cioè l'esperimento che ho detto quando io dicevo con tutto il fiato che avevo in gola, il mio nome, il mio cognome, quella a 20 centimetri da me, non sentiva assolutamente nulla, perché era autoreferenziale, mica doveva socializzare con qualcuno, era lì per sballarsi. Senta però, Salvini, adesso le faccio questa domanda, poi se ha un minuto dobbiamo fare il traffico, mi risponde subito dopo. Salvini ha detto che questo governo, che non dà i mezzi alla polizia per fare i controlli, perché anche nella recente riforma della pubblica amministrazione ci sono accorpamenti, riduzioni eccetera eccetera, poi però dice tolleranza zero, chiude la discoteca, ma invece alla polizia toglie i mezzi per fare i controlli. Lei al governo, adesso se ha un attimo di pazienza, dopo il traffico mi risponde. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo in diretta con l'onorevole Carlo Giovanardi. Le stavo dicendo questa dichiarazione di Salvini, che dice questo è un governo che sta chiudendo 200 presidi di polizia in Italia, dalla Polfer alla polizia postale, non ha le carte in regola per parlare di tolleranza zero. Alfano. No, si chiama questo buttare la palla in tribuna, no? Cioè si tratta di un argomento serio, di cui il Corriere della Sera, il Carlino, hanno fatto delle campagne in queste settimane intense e realistiche. Si butta la palla in tribuna e invece di dire se sei o no d'accordo, lo so, la Lega mi ha bocciato per un voto. Però scusi Giovanardi, è vero che se la polizia non ha i mezzi per fare i controlli, come si fa poi a... cioè si può chiudere la discoteca per 4 mesi, no? Mettiamo che guardi, si... Però poi dopo che succede? Rimini, se la polizia non fa controlli... La relazione del questore di Rimini ha letto di un questore bravo che con le forze che ha a disposizione può benissimo fare i controlli, li può benissimo fare, può rilevare quello che ha rilevato e penso che non se ne è. Però non li ha fatti, però forse non li ha fatti, perché se no invece di aspettare il morto la chiudevano prima la discoteca. No, scusi, li ha fatti e la relazione l'ha fatta e chi l'ha letto è un lavoro che viene da lontano, ci sta lavorando anche la finanza, io credo che avremo anche delle novità in un prossimo futuro sul tipo di gestione. Di certe realtà, perché poi per l'amor di Dio ci sono i locali sani, ci sono i gestori, non bisogna generalizzare, però davanti a un fenomeno un paese civile reagisce e fa prevalere gli interessi di salvaguardare la vita, il futuro. Io ho sempre detto, anche discotecari con cui ho avuto mille discussioni, ma anche in amicizia, se quei 7.000 ragazzi non fossero morti, se non c'era normalismo, c'erano proprio, erano 7.000 potenziali clienti. Quindi voi avete perso 7.000 potenziali clienti, quando tutti assieme invece si può operare per garantire il divertimento, per garantire ai giovani soprattutto la possibilità di svago, ma non invece far prosperare quei venditori, quei mercanti di morte, a causa dei quali i giovani si rovinano la vita. Ma non, una cosa talmente semplice. Ma non converrebbe fare dell'informazione invece sulla droga piuttosto che semplicemente fare un divieto? Ma l'informazione abbiamo fatto nelle scuole, nelle famiglie, nelle parrocchie. Ma per esempio, perché lei si è opposto al suo tempo al pill testing? Arrivano per TV, sì. Quelli che sciagurati che vanno a dire che bisogna legalizzare la cannabis, che la cannabis non fa nulla. Andate a vedere nelle neuroscienze il cervello di un bidone. No, guardi, Veronesi che è un legalizzatore, non ha mai detto che la canna non fa nulla. Perché lei è contrario, lo era anche quando si occupava direttamente di queste questioni, al pill testing, che consente ai ragazzi di testare se le pasticche, che sono il vero dramma di adesso, sono pericolose oppure no? È quello che ha spiegato Garattini. Proprio l'altro giorno, rispondendo a Garattini, ha spiegato il presidente del Mario Negri che i test non servono una beata massa. Ma sono usati in molti paesi europei. Però, come non servono? Perché non servono, scusi? Assolutamente nulla, perché contenendo quel tipo di principi attivi, anche se uno dice no, ma è compatibile, uno che ha un organismo di un certo tipo ci rimane secco. Però esclude i casi più gravi di cose. Andiamo a quei principi attivi. Sì. Perché il problema di questo è un paese che l'altro giorno al Senato abbiamo approvato a favore di popolo un disegno di legge che prevede, la Camera lo converte fra poco, 18 anni di carcere, 18 anni, per chi investe e uccide due persone sotto l'effetto della cannabis. 18 anni di galera, mi sembra una follia. Fuma la cannabis, non c'è mica un problema. Come non c'è un problema? Ma se dopo tu investi uno, passi metà vita in galera. E la gente ha voluto questo. Perché sì, di più con la cannabis piuttosto che con l'alcol, il cosiddetto omicidio stradale. Quindi dove vuole arrivare, Giovanni? Sì, ma non è la cannabis. La gente non deve farsi di cannabis. È molto semplice. Ma no. A parte che la cannabis è legalizzata in molti paesi, viene usata a scopo terapeutico. Un momento, non devi farti di cannabis e guidare una macchina, Giovanardi. Non confondiamo le idee, Giovanardi. Che danno i bambini di 7-8 anni già con la cannabis dentro, perché ci sono le multinazionali che devono espandere i loro traffici. Sì, Giovanardi, quella legge lì è l'omicidio stradale, che prevede che non ci si deve mettere alla guida dopo aver bevuto, fumato, dopo se si è in stato. Scusi, se noi incrementiamo o comunque legalizziamo l'uso della cannabis, secondo lei, poiché quando uno degli effetti della cannabis è che uno è in una situazione... Sì, ma la domanda che l'ho fatto... Ma allora è come con l'alcol, mi scusi, allora va vietato anche il whisky. Ma infatti cosa ho fatto io? Scusi, perché non si può più fumare in Italia, nei ristoranti, nei bar, nei aeroporti, negli ospedali? Perché la mia legge, insieme a Sirchia, abbiamo tolto quell'incivile situazione nella quale se andavo al ristorante, andavo al bar, andavo in ospedale, mi pigliavo un tumore passivo per il fumo degli altri. Quando l'abbiamo fatta 10 anni fa, c'è stata una opposizione furibonda della Confesercenti, la Confcommercio, falliamo tutti. Vabbè, quella è una cosa fatta bene. Guarda che sì. No, ma perché? È una cosa civile, chi va a mangiare mangia. Ma perché, scusi, nel caso del sedicenne morto per l'uso di una pasticca al Cocorico, in quei casi lì, visto che le pasticche a volte sono tagliate male, fanno molto male, non è l'ora di introdurre anche in Italia il pill testing che lo usano in molti paesi? Lei scriva Garattini e si prende la risposta di Garattini. Ma voglio la sua risposta. È una cosa che non sta in cielo né in terra. Ma la fanno in Inghilterra, la fanno in Germania, la fanno ovunque. Ma questo è dell'Inghilterra e della Germania. Io ho girato il mondo con i volanti di droga. Come quando sono andato a verificare quello che fanno, girano tante di quelle leggende metropolitane, di quelle balle fra virgolette, in questo campo. Certo, c'è chi... E basta vedere i siti, ha tutto l'interesse a commerciare questo tipo di sostanze. No, ma le sostanze girano già. Il problema è questo, Giovanni, che le sostanze ci sono già. E i pusher sarebbero terrorizzati da un pill test. Sarebbero ci sono anche i furti. Quindi? Ci sono anche le rapine, so che ci sono, Ma che le sa che in Italia ogni 100 furti trovano i responsabili di 3? Che facciamo? Legalizziamo il furto? No. Appunto, no. Anche se nella realtà i furti continuano e 97 volte su 100 non si trovi responsabile. Sì, ma non sta parlando di questo. È depenalizzato totalmente il consumo personale, è totalmente depenalizzato, uno dei pochi paesi del mondo, e se permette però gli spacciatori li perseguiamo. Ma ci mancherebbe altro, ma nessuno sta dicendo questo. La cosa che ci chiedevamo era il problema, stiamo parlando del problema della droga e il ritiro della patente. E il ritiro della patente o del porto d'armi. E quindi cosa dobbiamo fare di più che averlo depenalizzato il consumo personale? E quindi una domanda, risposta in 30 secondi, quali sono le forze politiche che sostengono il suo disegno di legge sulla chiusura? Nel paese, una stragrande maggioranza del paese è dato per cominciare, poi vedremo in Parlamento chi la secondo me, come nell'omicidio stradale, ci sarà proprio sotto pressione dell'opinione pubblica una grande maggioranza. Può darsi. Questo è possibile. Sì. Grazie Giovanardi, buona serata. Grazie, arrivederci. Mi piace moltissimo vederti duellare con Giovanardi, Carlo. No, ma quello che dico è che in questo momento, certo, prendendo il momento, gli chiedi, dobbiamo chiudere le discoteche, tutti dicono di sì perché è morto un ragazzino, ma il problema della droga non si risolve certo chiudendo le discoteche per quelli che hanno 16-17 anni, perché si drogano anche quelli che hanno 18, anche quelli che hanno 21, quindi che cosa cambierebbe? Nulla. Giornale radio, a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Dove nasce tutto il cibo del mondo? Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante. E ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Si può fare l'attualità anche d'estate. Tutti sappiamo come ha funzionato quando andavamo noi lì, cambia soltanto il metodo, la tipologia di sballo, ma insomma più o meno funzionava, tra virgolette, così. Non ti ascolto, quasi ho il vomito. Dalle mie parti mi dicono gli esperti, in Friuli. Sì, mi dicono soprattutto coloro che insomma seguono tutto il tema delle dipendenze, che sono molti di più i ragazzini giovanissimi che si fanno di sballo con l'alcol, cioè scientemente il venerdì sera o il sabato si chiudono nella casa di qualcuno e passano tutto il tempo con la birra piuttosto che il vino. No, buonasera cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. 800 24 00 24 è approdata in Parlamento una proposta di legge dell'onorevole nuovo centrodestra Carlo Giovanardi, l'abbiamo sentito poco fa, che propone di vietare l'ingresso ai minorenni nei locali notturni, insomma nelle discoteche eccetera eccetera. C'è però invece dall'Inghilterra un movimento di genitori che propone una soluzione diversa. In Gran Bretagna è nato da qualche tempo un appunto movimento che chiede, spieghiamo ai ragazzi come prendere l'ecstasy, e lo chiede capofila di questo movimento Anne Marie, una signora che ha perso la figlia nel 2013 morta per un'overdose di MDMA. E lo ricordiamo il fatto che sia un movimento capeggiato da una donna che ha perso una figlia per questo motivo, per tutti quelli che ci scrivono anche gli sms dicendo se aveste dei figli non sareste antiproibizionisti in questo modo. Non è così. Sono due tesi che sono si confrontano, e questo movimento chiede per esempio di fare informazione anche nelle scuole, ma anche di utilizzare quello che già in Inghilterra avviene, il pill test, cioè la possibilità di testare alcune di queste pasticche per capire se sono pericolose per la salute oppure no. 800 24 00 24, voi da che parte state? Questo invece il Giovanardi, la proposta di Giovanardi, ripeto, chiudere, cioè impedire ai minorenni l'ingresso in questi locali notturni per questa ragione, sentiamo? No. Se uno per tre ore balla sulla stessa mattonella agitandosi senza nessuna relazione, perché se anche urla con tutto il fiato che c'è in gola, che ha 20 centimetri da lui non riesce a capire una parola di quello che dico. Più musica techno, che siamo a livello di un era del coso, più luci psichedeliche. È lo sballo, cioè è un ambiente che è fatto per sballare. E il vecchietto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per carità. Il vecchietto, dove lo metto, non si sa. Però stasera siamo partiti anche dalle notizie, diciamo, di stretta attualità, con la nomina di Monica Maggioni presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI, presidente della RAI. C'è però da risolvere la questione dei pensionati. Dei vecchietti. Dove li mettiamo questi quattro pensionati che, in base a una legge del 2014, non possono assumere incarichi retribuiti in aziende di Stato? Diaconale, Mazzucca, Freccero e Guelfi. Tutto tace per il momento. A parte Freccero che ha detto io lo faccio anche gratis, sì. Diaconale che ha detto io gratis anche no. Anche no. E gli altri due che per il momento non so, stanno controllando l'IBAN. Non hanno l'IBAN. Detto nulla. E quello che sappiamo è che si sta studiando una soluzione per questa cosa, che potrebbe essere appunto giocare su questa indennità, un mezzo, un quarto, un terzo. Caprarica, che abbiamo sentito, Antonio Caprarica, ex corrispondente Rai da Londra, dice una soluzione la troveranno senz'altro per bypassare questa. Intanto il Movimento 5 Stelle, per tenere le poltrone. Esatto, intanto il Movimento 5 Stelle boccia Monica Maggioni e dice che non può essere un presidente di garanzia, forse per quella famosa partecipazione a Bilderberg. Questo non lo sappiamo. Il complotto di Bilderberg, va bene. Abbiamo delle voci sulla RAI? No, l'abbiamo sentite prima. Sentiamo invece Renzi, Matteo Renzi, oggi in conferenza stampa, illustrando tra l'altro la riforma della pubblica amministrazione, ha fatto un po' un bilancio prima forse di questa pausa estiva. E lui tira dritto, sentiamo. Non era mai accaduto nella storia repubblicana che tante riforme fossero fatte tutte insieme. Quello che però vorrei segnalare è che se è vero che l'Italia sta meglio di un anno fa grazie alle riforme fatte, noi abbiamo ancora molta fame. E la fame porta a dire che molte delle cose che dobbiamo realizzare saranno oggetto del lavoro dei prossimi mesi. Non si sa, va a finire che non c'è posto, forse neppure nell'aldilà. Il lavoro che hanno svolto i parlamentari è un lavoro straordinario in questo anno e che ha portato a riformare dalla pubblica amministrazione, l'ultima arrivata in termini di approvazione di legge, alla legge elettorale, alle varie letture della riforma costituzionale, alle norme sulla giustizia, contro la corruzione, alle norme che hanno consentito di sbloccare il mercato del lavoro, alle iniziative di natura economica sulle banche, ma anche alle iniziative della legge di stabilità, dove si sono trovate delle risorse per gli 80 euro e anche per, come sapete, l'abolizione della componente lavoro dell'IRAP. Potrei continuare e forse annoiarvi. Qualcuno per esempio dice che Renzi ha perso il tocco, perché oggi ha indetto questa conferenza stampa durante la gara di Federica Pellegrini. Non è da lui, non è da lui. Di solito twittava, forza. Tutti lì a guardare la Pellegrini, intanto lui in conferenza stampa a Palazzo Chigi e non lo seguiva nessuno. Insomma, c'era interesse per un'altra cosa. Va bene, questa è una dietrologia. Invece, sentiamo. Adesso è il momento di rilassarci un po'. Ha appena ottenuto un riconoscimento per il suo impegno di turista spazzino, nel senso che lui passa una parte delle sue vacanze a ripulire in particolare la spiaggia di Bellaria, comune che l'ha premiato, ma non solo. Il suo nome è Simone Riva. Buonasera a tutti. Buonasera. Simone... Grazie infinite. Simone, grazie Riva, a lei. Da... Pronto, ci sono. From? Ora sono a Savignano Mare, ma io abito a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Quindi adesso sei sul luogo del delitto, potremmo dire, Savignano Mare. No. Sei già pronto con la scopa? Del relitto, quasi. No, io mi arrampico sulle scogliere al mattino, pulisco tutte le scogliere in Romagna, da Cesenatico a Viserbo, da solo. Sì. E non solo, anche i bordi del Rubicone, le piste ciclabili e tutto. Ah, quindi... volontariato, sì. Ma più le scogliere che le spiagge, quindi? Ma le scogliere in Romagna, ci sono le scogliere? Sì, frangiflutti, diciamo, sì. Sono i classici scogli, che chiamano scogli, sì. E niente, questo lo faccio da quando sono nato. Ho sempre fatto San Mauro Mare a 15 anni, 16 anni. Iniziato, a che età hai iniziato, Simone? Allora, io lo faccio fin da piccolo, facevo i bordi del Rubicone, tutte le cose semplici. Ma da tipo piccolo che età avevi, scusa? Da piccolo? Ma un 6-7 anni, sì. Ah, però, veramente piccolo. Una cosa innata. Sì, sì. Beh, 6 anni, ma sì, ti mandavano a fare queste cose anche un po' pericolose, ai bordi dei fiumi a ripulire. A passare il Rubicone, poi? No, lo facevo io, contro, diciamo... Il parere dei genitori. L'indicazione dei genitori, sì, sì. Sai cosa ne penserebbe Giovanardi di questa cosa qua? Un minorenne che va... È uno sballo. È uno sballo che... No, in un paese, Simone, permettici, insomma, nel quale la questione dei rifiuti è sempre più purtroppo una questione capitale, e non è solo un gioco di parole su Roma, ci ha colpito la tua storia. Qualche giorno fa il comune di Bellaria, accortosi di questo tuo impegno, ti ha dato una targa. Sì, in verità è stato l'anno scorso. Io ho ricevuto 7 premi ambientali per ora. Ah, scusa, è l'anno scorso che hai avuto il premio? Sì, ah, sì, ho è visto stato l'anno male. Scorso, sì, sì, sì. 7 premi ambientali, 7 premi. A San Mauro Mare, sì, sì, sì. Fantastico. Sono premi unici, io ringrazio tutti i sindaci che mi hanno premiato e uso questi premi solo per sensibilizzare sull'ambiente, non per notorietà, ecco, come qualcuno dice. Quanta roba cioè, dove la metti poi la sporcizia? Ti porti dietro dell'attrezzatura? Come fai? No, io vado a nuoto sulle scogliere, tiro giù tutto a mano, lo metto nel sacco e i bagnini mi danno una mano a smaltire il tutto. Ecco, ma quello che mi chiedo è, in tutti questi anni, come mai non è riuscito a mettere su una squadra? Perché tutto ciò lo fa da solo, giusto? Sì, da lo anni. Faccio da solo. Mettere su una squadra anche è molto amici. Impegnativo, perché tra il lavoro, la famiglia e il turista spazzino, se dovessi mettere su una squadra, anche se c'è qualcuno che mi aiuta, sarebbe molto impegnativo, ecco. Certo. Ecco. No, diciamolo, secondo noi è una cosa bellissima quella che lei fa. Poi diciamo, non è facile trovare qualcuno che è un adepto di questa... di questa pratica, forse no? Sì, no, Simone. No, ci sono persone che fanno quello che faccio io. Le scogliere no, le scogliere le faccio solo io qui in Romagna. Io pulisco anche tutto quello che mi capita di le scogliere. Lo dice quasi tuo. Con orgoglio. Esatto. Le scogliere sono mie. Quasi come se fosse una divisione di zone. No, è che qualcuno mi chiede ogni tanto: dai, sulle scogliere vengo anch'io, ma io non mi voglio sentire responsabile che qualcuno si faccia male, perché è molto pericoloso. Ma a proposito di qualcuno che ti chiede, no? Io mi immagino la scena. Qualcuno ti ha mai chiesto spiegazioni, tipo, non so, magari pensano che sia un addetto alle pulizie, scusi, dov'è il cassonetto? Oppure, guardi, venga un po' più in qua a pulire che c'è una montagna di immondizie. Sì, ecco, quella è una cosa sempre che mi ha dato fastidio. Infatti l'anno scorso ero sulla scogliera di Savignano Mare, stavo pulendo e della gente mi dice: guarda, là c'è una lattina, c'è una bottiglia di plastica. Io gli dico: ma scusa, raccoglietela tu. Bravo. Datemi una mano, posso stare lì a parlare. Infatti, vedi però com'è il senso della, come dire... Dice: possiamo sporcare, tanto c'è il turista spazzino. Sì, sì, esatto, appunto. C'è sempre qualcun altro. Anche in spiaggia la gente in riva al mare vede un sacchetto di plastica. E non si muove, non si muove. Vanno lì, vedono questo sacchetto come un evento biblico. E magari dicono, vedi che la sporcizia, la gente, l'incuria. Sì. E nessuno che si china per tirarlo via, vero? Bravissimo, infatti ci vuole pochissimo prendere il sacchetto e buttarlo dentro. Quello è proprio un passo, un cambio di passo, no? Un cambio di mentalità, cioè da lamentarsi e basta a basta, invece a, appunto, è il passaggio da passivi a attivi. Sì, le persone, se non hanno un ritorno in denaro, molte persone, perché alcuni fanno quello che faccio io, non si muovono, ecco, se non c'è un ritorno in denaro. Invece questo è volontariato e amore per la natura. Ognuno di noi deve contribuire a fare qualcosa, secondo me, ecco, anche nel suo piccolo, anche una lattina al giorno, moltiplicato. Sì, no, beh, certo, basta poco. Uno si siede in spiaggia, vede una cicca di sigaretta, la prende, la mette nel sacchetto dei rifiuti e se la porta la butta via. Ma ti voglio chiedere questo, Simone, tu adesso quanti anni hai? Te lo posso chiedere? Io ho quasi 43 anni, sì. Quindi, sì. Il 14 ottobre faccio 43 anni. Sono tanti anni che la fai questa cosa qua. Hai visto un cambiamento nelle persone, in senso di un miglioramento o addirittura un peggioramento per quanto riguarda la cura? No, la situazione è sempre la stessa. Uguale. Stabile. I rifiuti sono sempre gli stessi. Anzi, secondo me è ancora peggiorata la situazione e i governi non fanno assolutamente nulla di questo. Io non vedo proprio niente. Sì, ci sono dei puliamo il mondo, Ad esempio a Paullo in provincia di Milano, dove ho preso l'ultimo premio ambientale che è stato il settimo, sì. Ci sono dei puliamo il mondo e la gente si dà molto da fare per fare queste cose, però sono sempre molto pochi, cose un po' estemporanee, dici tu, sì. Così mm. Sì. Ma l'acqua invece, l'acqua del mare è lì a Savignana adesso com'è? Pulita? Più pulita dell'anno scorso? C'è qualche bandiera blu in più o no? No, la bandiera blu l'ha presa San Mauro, non mi ricordo se Savignano l'ha presa, comunque diciamo che, allora, è brutto dirlo, però tutti i mari del mondo sono inquinati. Diciamo che qua in Romagna la gente, magari siccome non c'è il fondo bianco come la Sardegna e c'è qualche fiumetto che porta dentro l'acqua dolce e un pochino di fango così, dice sì che è un mare inquinatissimo e qua e là. Invece secondo me è molto più pulito anche di altre località che... più rinomate magari. E tu vai solo in vacanza lì o vai anche altrove a prestare la tua opera, tra l'altro? Io sono andato a fare la vacanza, delle vacanze in Trentino con dei ragazzi disabili gli anni indietro. Sì, sono sempre venuto qua in Romagna, Mi è capitato anche di andare in Trentino, ma là in Trentino sono disoccupato, hanno un'altra mentalità. Senti, ma una vacanza normale senza occuparti dei rifiuti l'hai mai fatta? No, però io voglio dire questo. Cioè, rilassarti un po' e dire adesso pensateci voi, basta, ma avete stufato con questi rifiuti. Io torno a casa quando la mia famiglia si sveglia, perché mi alzo alle 4 e alle 5 del mattino, quindi io alle 7 e mezza, 8 meno 4 sono a casa, quindi questo ci tengo a dirlo, non intacca il mio attaccamento familiare, i miei doveri familiari, certo. Ecco, come qualcuno crede. Ecco. Bravo Simone, giusto, complimenti. Perché, ecco. Ma lei va in discoteca? Ci sono andato due volte nella vita, la prima mi è piaciuta, la seconda mi sono stufato, però... Sei stufato subito alla seconda. Ma c'è un sacco da pulire anche lì, volendo, dico. Ah, sì, lì c'è più i neuroni della gente da pulire. No, io dicevo che c'è da pulire, nel senso che c'è anche roba in terra sporca, non è che... Ah, sì, ecco. No, stavo scherzando tanto, anch'io. Tanto lì di discoteche in Romagna siamo proprio nella zona, delle... Ah, sì, delle esatto, sì. Mm. Simone, grazie, complimenti. Niente. Ancora, buona vacanza. Non sappiamo se dirti dirle buona vacanza, perché appunto la sua vacanza consta sempre in fare un sacco di lavoro, è molto utile a tutta la comunità, quindi noi la ringraziamo. Va bene, facciamo il 50%, dai. Un buona vacanza e un buon lavoro. Buon lavoro. Va bene. Ciao, grazie. Buona serata allora, grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao. Questo ottimismo così aiuta, Se passate da Savignano e vedete un uomo a girarsi sugli scogli con un sacco sulle spalle, è Simone Riva. E sappiate che per metà è turista e per metà è spazzino. 800 24 00 24, ci ritroviamo tra pochissimo con gli ascoltatori. Si può fare l'attualità anche d'estate. Di nuovo buonasera cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ricordiamo i nostri contatti, vabbè, il numero verde 800 24 00 24, lo sapete, 349 238 6666. Ci sono dei messaggi di complimenti per Simone Riva, l'abbiamo appena sentito, il turista spazzino che insomma si dedica quasi sempre alla Riviera Romagnola e ripulisce così le scogliere. Facebook si può fare trattino radio 24, certo. Twitter si può fare 24, oppure i nostri account personali, il mio è @ Carlo Gabardini, il mio è @ Ale Maurizi. Allora abbiamo Patrizio che ci chiama dalla provincia di Lecco. Patrizio, sì. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Ma niente, io ho letto stamattina una notizia sul Corriere per quanto riguarda il pensionato Carlo Freccero, nuovo, sì, consigliere d'amministrazione. Mi sembra che vorrebbe riportare Grillo e Santoro in Rai. Sì, ha detto questo. Lui è stato nominato proprio da Movimento 5 Stelle e da SEL. Ora, Freccero, che io conosco dai tempi di Antena Nord a Milano, è un personaggio sicuramente in gambissima, ma anche pieno di contraddizioni. È stato il principale oppositore di Berlusconi per quanto riguarda il conflitto di interessi. E adesso vuole portare Grillo, lui che è stato eletto dal Movimento 5 Stelle, in Rai. Veramente siamo all'ultimità più assoluta. Se posso spezzare una lancia, credo che Freccero, dicendo così, era un modo per dire di recuperare il Grillo comico, non era il fatto di dare un programma a un leader politico, e in questo lei ha ragionissimo, sta dicendo ma come? È stato eletto da lui e come sua prima mossa invita lo stesso Grillo. Penso che fosse un modo per dire mi piacerebbe che tornasse Grillo, perché Grillo, finché diciamo da uomo di spettacolo, ha fatto delle cose molto importanti anche in Rai, da Te lo do io il Brasile e così via. Penso che fosse questo il concetto, però forse mi sbaglio. No, guardi, io non mi aspetto di nulla, cioè, tant'è vero che addirittura la storia famosa che è uscita proprio in questi giorni, oggi, della storia di Renzi per quanto riguarda il discorso di dare o non dare un emolumento ai pensionati extra Rai, mi viene da ridere, non potevano pensarci prima. C'è un consiglio ce lo chiediamo. Ce lo chiediamo dalle 6:30 soprattutto, perché non capiamo come sia possibile che se lo fossero dimenticati, anche perché 4 su 7 è un bel dato, è un po' più del 50%. C'è stata un'amnesia. Però le devo dire una cosa su Grillo, perché mi sono andato a rivedere l'intervista. Allora lui, Freccero non ha detto che lui vorrebbe Grillo in Rai, ha detto che rivedrebbe Santoro in Rai. Ha risposto. No, ma perché ride, scusi? Perché Freccero per fare cosa? Freccero ha risposto una domanda del giornalista del Corriere che gli ha detto: ma secondo lei Grillo oggi tornerebbe in televisione? E lui ha detto: sì, ne ha una voglia pazzesca e tornerebbe volentieri. Pazzesca è la parola più grilliana, tra l'altro, non al mondo. Non è che ha detto: io porterei Grillo in Rai, non ha detto questo, è diverso, no. Se vogliamo. Sì. Comunque, e lei ci crede? No, non è che ci credo, questo è quello che ha detto. Se poi lei crede invece che dietro questo ci sia qualcos'altro, è un problema suo. Ha detto Freccero. Ma poi, per l'amore del cielo, io non. Poi non me ne frega niente, né di Grillo né di Freccero. Va bene. Grazie. Vi ringrazio. Grazie a lei, arrivederci. Allora andiamo con Luisella. Da dove, Luisella? Buonasera, telefono da Ferrara. Ah, ecco. A proposito del consiglio d'amministrazione della Rai, sì. Io vedrei benissimo Corradino Mineo. È sempre stata, è una persona che ha diretto Rai News 24 in maniera eccellente. Invece è arrivato uno che l'ha diretta dopo di lui, Monica Maggioni. No, dopo di lui è andata Monica Maggioni. Sì. No, ma le volevo dire che il consiglio di amministrazione è chiuso e... No, e temo che Mineo, diciamo, con quello che è successo nella fase della minoranza PD, non era proprio esattamente il più dei renziani. No, ma quella è una cosa politica. Politiche. Io dico per merito. Certo. Io sto parlando per merito. Corradino Mineo si era dimostrato bravissimo quando dirigeva Rai News 24. Lei segue Rai News 24, le piace? Mi piaceva molto. Solo quando c'era Mineo, dopo con la Maggioni non le piaceva più. È cambiato. Più così incisivo. Quindi, ecco, e poi un'altra cosa le voglio dire. Sentivo parlare di Freccero. Sì. Per me, guardi, Freccero sarebbe un'ottima risorsa per la RAI. È già nel consiglio d'amministrazione, comunque. Le diamo la Luisella, notizia. Luisella, s'aggiorni. Grazie, buona serata. Grazie. Simone da Milano. Pronto? Eccolo, prego. Buonasera, io volevo fare l'intervento, forse un po' in ritardo, a proposito della chiusura del Cocorico ed esprimere la mia totale contrarietà, anzitutto perché l'intervento non serve a nulla, un esempio banale, allora chiudiamo le gioiellerie perché ci sono le rapine. E anzi, purtroppo, l'ennesima occasione in cui uno Stato totalmente incapace manifesta la sua totale incapacità, anziché fare prevenzione, oltretutto si va a chiudere un'attività commerciale, guarda caso, e a ridurre il lavoro in un paese che già ce n'è poco. Tutto qua. Va bene, grazie. Condivido che chiudere le discoteche per il problema della droga non ha assolutamente nessun senso. Un po' meno con l'esempio, diciamo, sulle rapine, ma condivido. Massimo dalla provincia di Pavia, buonasera. No, non c'è Massimo. Francesca da Varese, allora. Francesca, buonasera. Anche questa la sento e non la sento. Francesca? Sì, io anche. No, non la sento. Andiamo Pronto, Francesca? Sono io, qua, pronto. Sì, ma non la sentiamo. La sentiamo molto male, Riproviamo dopo. Gianni da Firenze. Buonasera. Buonasera. Eccolo, Gianni. Lei almeno lo sentiamo. Forse. Che piacere poter riascoltare Radio 24 dopo le 18:30. E da quanto tempo non l'ascoltava? Da anni? No, non l'ascoltavo dalla Zanzara perché... Vabbè, cambiamo argomento. No, sì, non entriamo salutiamo in questa Cruciani polemica Parenzo, che noi invece che esatto, in salutiamo con grande affetto Cruciani e Parenzo. Prego, Gianni. Perfetto. Che piacere ascoltare. È ripartito di lì. L'arguzia di Caprarica. Ah, ecco, sì. Che ha fatto un discorso molto molto intelligente sulla RAI e soprattutto sul discorso delle testate giornalistiche, come ha detto giustamente, la BBC è un'unica testata giornalistica e noi in buona sostanza abbiamo tre testate che sono altro non sono che il ricordo delle vecchie spartizioni e lottizzazioni. Beh, insomma, neanche tanto ricordo. È il presente più che il ricordo. Però sì, ieri Freccero ci diceva che in realtà in Francia, invece, alla domanda di Alessio, rispondeva che in Francia ci sono diversi TG, quindi la BBC è così, però per esempio in Francia no. Quindi quale modello va seguito? Ma va seguito. Io sono anglofilo. Lei farebbe la dieta dimagrante alla Rai, se ho capito bene. Gli farebbe fare una bella dieta dimagrante. Secondo me USA e Inghilterra sull'aspetto del giornalismo hanno tutto da insegnare. Hanno tante cose da insegnare. Va bene, Gianni, grazie, buona serata, complimenti. Francesca da Varese, abbiamo recuperato? Alessio Maurizi, mi sente? Sì, la sento. Ah, buonasera, sono sempre la sua amica Francesca, io, la solita. Siamo amici noi? Senza conoscere. Io sono Carlo Gabardini, invece, noi come stiamo messi a rapporti? Sì. Complimenti per il libro, è stupendo. Grazie. Ascolti, Maurizi, io le volevo dire questo. Sì. Il signore di prima della spiaggia, no? Io vivo la stessa situazione, cioè a me non mi ha premiato nessuno, per carità, però il fatto che non riesca a formare una squadra di persone che lo prendono ad esempio, cittadini che riscoprono il senso civico, è normale. Io per esempio mi occupo di cimiteri da tantissimi anni, di restaurare le tombe, di pulire eccetera. Dei gran complimenti, pronto? Sì, no, la siamo rimasti sul cimitero perché gelati. Ci chiedevamo se puliva i cimiteri o appunto se faceva dei restauri. No, restauri anche delle croci, delle tombe, specialmente quelle vecchie, che non c'è, ormai non c'è più parenti. Allora io non mi dica che è un hobby che non riesce a condividere con qualcuno perché non ci credo. È una non cosa... Allora, dei gran complimenti, se non ci fossi tu, guarda qui qua. Non c'è un cane che dica ok, domani vengo con i guanti. Però Francesca è un hobby abbastanza di nicchia, diciamo, fare proprio adesso mi stava venendo a dire il tombarolo, ovviamente è la parola errata perché non è il tombarolo, però è un hobby che è giusto che se qualcuno ce l'ha che lo coltivi, però obbligare gli altri a restaurare le tombe di terzi è difficile, no? Ma scusi, i cimiteri diventano dei roveti, scusi. Ma lei fa benissimo. Ma fa benissimo. Qualcuno se ne deve occupare, esatto. Insomma, vero Francesca? Il comune non ha uomini, non ha spazzini, non ha personale, no? Se io sinceramente passo delle gran ore, no? E quel ma poco quando si reca nei cimiteri, Francesca? Facciamo un esempio, il fine settimana. Da lunedì sono a casa in ferie, praticamente sono fuori dalla mattina alla sera. Ma sempre al cimitero? Più di uno, non solo qua del mio paese, io abito in un paesino Gira tutti. Fa proprio il tour dei cimiteri e quindi si documenta su internet per trovare gli indirizzi di quelli messi peggio. Che vado anche fuori provincia, qui in zona, qui che per carità di e che sono tipo cimiteri provinciali quelli, che quelli delle nostre frazioni, che tipo di incuria c'è nei cimiteri, facciamo un esempio, fiori buttati lì, c'è un'erba cattiva perché non ha piovuto per tanto tempo che è veramente infestante, tutti i vialetti tra una tomba e l'altra, un disastro. È l'erba cattiva cresce al cimitero, giustamente no, cresce anche in giro per ragionamenti, però cioè per me i cimiteri sono dei presidi di memoria, persone che hanno contato anche nella loro semplicità ed è giusto tributargli questo minimo di decoro, capisce? Ho capito, Francesca, ma lei ha provato a coinvolgere direttamente qualche amico ad andare a fare questa cosa? No, assolutamente, io non ho provato Sperava di fare proseliti così con l'esempio. Per me l'esempio è tutto, anche perché, ripeto, dei gran complimenti, no? Sì. E io tra di me dico, ma che cacchio mi fai complimenti se poi non abbassi la schiena per strappare un filo d'erba, cioè, capisce? Io vado proprio a pulire laddove anche il comune... Siamo alle solite, bravo, vai avanti tu che a me mi viene da ridere, insomma. Vale anche per i cimiteri, però onestamente è un hobby un po' particolare, Francesca. Ma sa cosa rispondo io quando mi fanno i complimenti? Sì. Rispondo dicendo meno pellegrinaggi che poi sono solo delle belle vacanze e senso civico. Brava. Siamo rimasti così. Va bene, grazie mille, arrivederci. Buona serata. Siamo rimasti senza parole. Cosa c'è? Il traffico? No. No. Andiamo in Grecia? Vai. moltissimi italiani sono stanno andando in vacanza in Grecia, sicuramente perché si sono abbassati i costi, no? Insomma, le spese da affrontare per il viaggio, perché per la nota crisi greca, un po' che per una sorta di solidarietà. Tu sei solidale con i greci, per esempio? Ci hai pensato ad andare in vacanza in Grecia quest'estate? Sì, ci ho pensato. Sono molti che ci hanno pensato. Ammetto che c'è anche proprio la paura che uno dice: ma se poi non funzionano i banco, ma devo portarmi dietro tutto. No, però adesso questa cosa che... ormai è superata, non c'è più nessuno. È superata, ma magari torna in auge. Un attimo, può succedere. Ci sono, la borsa ha perso il 30% però, l'altro ieri. Ci sono però delle opportunità nuove anche per le imprese, perché, e questa è la notizia, stanno lasciando molto spazio le imprese tedesche, tradizionalmente ben piazzate in Grecia, pare che adesso si guardano in giro con sospetto. Guardano in giro, diciamo, perché c'è un atto, una sorta anche di boicottaggio da parte dei greci. Questo lo scrive anche l'ANSA. Oggi noi ne parliamo con un imprenditore italiano che si trova in Grecia, Leonardo De Chanaz, come si pronuncia? No, cognome. De Chanaz. Mi scusi. È di origine francese o di sì, valdostano? Sì. Che cos'è? Sì, quadrisnonni, dobbiamo andare un po' indietro, ma insomma, quello ha poco importanza. Lei si trova adesso in un posto meraviglioso, un'isola greca. Sì, io vivo qui da diversi anni. Da quanti anni? 10 fisso, 25 ho preso la prima casa e poi praticamente io vengo, diciamo oggi ho quasi 70 anni, vengo qui da quando ne avevo 16. Vabbè, cominciato quindi a venire in vacanza, poi si è comprato la casa e poi si è trasferito e fa un lavoro lì. Sì, diciamo che ho l'agenzia immobiliare dell'isola e affitto le case belle, diciamo, le case di alto di gamma. E sono scesi i prezzi in questo periodo? I prezzi degli immobili sono scesi di un 25-30%, quello anche in Italia, molto meno rispetto ad Atene, sì, perché sono sostenuti da una domanda estera alquanto vivace. Però gli affitti si mantengono piuttosto forti. Quindi quest'anno abbiamo avuto un 30% di incremento. Ah, del costo degli affitti, quindi costano meno le case? No, di persone. Un incremento di gente che viene lì. Esatto, un incremento del volume. E per la sua felicità, naturalmente. Ma è per la crisi? Cioè, sono persone che vengono anche perché pensano di spendere meno? Guardi, io devo dirle questo, che gli italiani vengono anche con il cuore. Ah, bene. Cioè, con l'idea di aiutare un paese in difficoltà. Sì, poi ovviamente c'è una affinità piuttosto grande fra italiani e greci. Una faccia, una razza. È la tradizione. Una faccia, cioè, una razza. No, invece i tedeschi normalmente... No, perché io quando ho letto... Ne ho visti pochissimi. Sì. Le dirò che i greci hanno un sentimento ormai molto negativo rispetto ai tedeschi. Se non di ostilità proprio. Pronto? Se non di ostilità nei confronti dei tedeschi. Io le dirò che se lei va su Facebook, in questi siti qua, vede una forte tendenza a boicottare i prodotti tedeschi. Però quando io ho letto l'agenzia di oggi dell'ANSA che ha messo fuori questa cosa, opportunità anche per le imprese in Grecia, italiane, perché i tedeschi se ne stanno andando, sono rimasto sorpreso, perché la Germania, e questa è un'accusa che è stata fatta direttamente anche alla Merkel, in questi anni in Grecia ha fatto affari, cioè dalla compagnia telefonica agli aeroporti di molte isole, tra l'altro, che sono in mano alla società di aeroporti di Francoforte, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcosa sta cambiando, secondo lei? Qualcuno si sta ritirando? Qualche interesse tedesco in Grecia? Dobbiamo guardare il mercato. Il mercato è fatto da tante persone che comprano i prodotti di un certo tipo. Ormai i prodotti tedeschi stanno incontrando una forte resistenza, che ormai si chiama resilienza, da parte del consumatore greco, il quale in questo momento non è che abbia molta liquidità. Però questo sentimento molto diffuso a tutti i livelli sociali greci sta aprendo nei mercati a chi ha dei prodotti, a chi produce dei prodotti in concorrenza con i prodotti tedeschi. Tipo quali settori, per esempio, potrebbero essere profittevoli? Ma io direi dall'automobile, per esempio, penso alle nuove Alfa Romeo, potrebbero essere in forte concorrenza con BMW, forse non Mercedes ma BMW sicuramente. Io penso a tutto il settore macchinari industriali e macchinari, penso al settore delle pompe, perché è un settore specifico che stiamo toccando con mano per delle esigenze specifiche. Cioè, ma lei dice che in Grecia potrebbe esserci un nuovo mercato, perché qualcuno dice: io non compro più il macchinario dai tedeschi, l'auto, ma preferisco un macchinario italiano. Questo? E dico esattamente questo: se le imprese italiane, perché sono in concorrenza con imprese tedesche su qualche specifico prodotto, vengono qui adesso, potrebbero riprendersi la rete di distribuzione e assistenza presente per i prodotti tedeschi. Mi metterò a produrre dei würstel italiani, così da venderli in Grecia, mi sembra perfetto. E perché no? E perché no? Va scritto che è un prodotto italiano. Certo, perché poi la vera cosa è che molte volte non si sa. Però quello che dicevo io prima, cioè dei forti interessi che ci sono tedeschi in Grecia, questo. Allora, io su questo non dire alcune cose. Non è che la presenza tedesca all'aeroporto e sulle autostrade abbia funzionato, non possiamo dire di no, funziona, ha funzionato e funziona anche bene. Però dietro a tutto questo c'è in corso un processo. Insomma, c'è un cambiamento in atto. Praticamente l'ultimo periodo, insomma, della guerra, chiamiamola così, tra Tsipras e la Merkel, che poi ha avuto tutto l'epilogo di questo accordo in extremis, eccetera, eccetera, cioè, secondo lei ha cambiato il volto dell'opinione pubblica, che adesso decisamente guarda molto male a tutto quello che è Made in German. Sì, e quindi anche questo, alla luce della scoperta di una mega tangente fatta da una compagnia tedesca ai vecchi politici. Sì, ci sono delle inchieste grosse in Grecia su questo. Non menziono qui perché non. Ma lei adesso dov'è? Su una terrazza vista mare? Sì. Ah, la immagino. Come si chiama l'isola? Serifos. E davanti a lei che cosa vede? Beh, in questo momento sto aspettando di andare sulla Luna. Ha già tramontato? Sì, sono tramontato. Quindi sto aspettando poco la Luna da un minuto all'altro. Anche in via Monterosa comunque non è male, c'è un discreto tramonto e delle vecchie automobili che passano rumorose nella strada. Io non ho automobili, ho solo 13 isole qui davanti e vedo una nave da crociera che per fortuna non si ferma in questa isola. Beh, buona serata. Grazie. Grazie a grazie. Voi, buona serata a voi. Grazie. Ciao, Leonardo De Chanà. Andare a fare investimenti in Grecia? Ci hai pensato? Ma chi lo sa, potrebbe essere un'idea. Ma sentiamo degli ascoltatori. Sì. Massimo da Pavia, buonasera. Oh, ecco, buonasera. Prego. Buonasera. I tedeschi. Il sole non è tramontato a Pavia. No? Sta a qualche grado ancora sopra l'orizzonte. Ottimo. E soprattutto il panorama non è quello dell'isola greca. No. Vabbè, ma non penso che volesse parlare di tramonti. No. E di cosa voleva parlare? Allora, di Giovanardi. Ah. Per la prima volta nella mia vita mi trovo d'accordo con lui su ogni singola parola che ha detto. E là. E se voi rimandasse la registrazione ne potremmo discutere, perché ha una logica. No, ma l'abbiamo già sentita, prego. Lucida. Sì, ecco. Perfetta, dice tutto l'essenziale. Cioè vietare le discoteche per lo sballo. Sì, io ai 20 anni, quando la techno iniziava, subentrava la house, diciamo. Mm-hmm. Ecco, ho conosciuto l'ambiente. E che idea si è fatto a quell'età? Sì. Praticamente tutti dobbiamo passare per queste forche caudine. Vabbè, dipende dai gusti, mica tutti. Scusi, alle stragi del sabato sera. Massimo, mica tutti hanno fatto le stesse cose. Mica tutti. Ma se a 20 anni non vai in discoteca, ti emargini in qualche modo. E allora questo crea un problema. A 20 anni si è molto sensibili a questo fatto. Insomma, lei si è pentito di questo periodo discotecaro che ha avuto, perché? No, io non mi sono pentito. Io l'ho analizzato a posteriori. Uh-huh. Ho tirato un sospiro di sollievo per il fatto di essere sopravvissuto. È la miseria. Vabbè, però mi sembra un po' esagerato. Tipo una guerra, Massimo. Beh, del resto, se condivide Giovanardi, la penserà così. E quindi la conclusione è che Giovanardi ha ragione. Questa volta lo condivido. Sì. Però no, scusi, ma allora il discrimine cos'è? L'età? Cioè, dopo 18 anni uno può decidere, perché è maggiorenne, di andarsi a suicidare, secondo la sua versione dei fatti, bene, in discoteca. Lei tocca un altro aspetto. Però se fosse così, avrebbero proprio chiuse e basta le discoteche, no? Ma dopo i 30 anni qualcuno ci va in discoteca? Sì. È una mega discoteca, intendo. Ma certo che sì. Ma sì, penso di sì. Ma guardi, in più la cosa secondo che... me non sono molti. Ma sì, certo che sì, sono strapiene le discoteche. Non è questo il problema. Soprattutto il dubbio che ho io, nel senso che lei dice secondo me ha ragione Giovanardi, perché dice sono architettate per lo sballo. Questa parola sballo, che sembra un'enorme novità, ma il fatto di uscire la sera, bere, anche sballare se vogliamo, non è una cosa che è stata inventata oggi. C'è dalla notte dei tempi, le feste, il carnevale, ubriacarsi. Non è una cosa che... fanno i giovani scapestrati di oggi. Quindi avere, secondo me, questo atteggiamento direi un po' miope, retorico, di dire i giovani di oggi lo sballo, bisogna vietarglielo, lo trovo un po' folle. In più, penso che uno la festa se la farà in casa e si drogherà in casa e saremo contenti. Meglio. O chiuderemo le case, così torneranno le case chiuse. La discoteca è alienante. Se vogliamo, anche antropologicamente, raccoglie proprio un retaggio di cose tribali, cioè non dica troppe parole difficili nella stessa frase, se no non capisco, ecco. Però lì era tutto all'interno di un passaggio di età, di un'iniziazione adolescenziale, era tutto all'interno di qualcosa che la società prevedeva e si era costruito nel corso dei... faceva parte della cultura. Guardi, lei dice una parola giustissima. No, ascolti un attimo. Lei dice una cosa molto giusta. Era un passaggio ed era una cosa che la società la prevedeva. Il problema è che la droga esiste. Forse bisogna prevederla anche oggi, nel senso che è un dato di fatto che ci sia. E quindi bisogna farci conti, spiegarla, raccontarla, capirla. Ma io non sono contro la droga. Ho capito, ma non lei sono dice contro che la droga. Io non sono contro la droga. Io contro sono la contro techno. La discoteca. Ah, va bene. Sì, ma era un po' il discorso che faceva anche Giovanardi. Quindi è a favore della droga ma contro le discoteche? No, beh, a favore della droga no, però non sono neanche particolarmente Massimo, però contrario. Le faccio una domanda, scusi Massimo, le faccio una domanda, poi mi risponde dopo la pubblicità, resti in linea. Un ragazzo di 20 anni o di 18 o di 16, se noi appunto chiudiamo le discoteche, come dovrebbe fare per divertirsi? Ricordiamoci che in discoteca ci va anche gente che non si droga, ricordiamocelo. Cosa dovrebbe fare per divertirsi? Mi risponde dopo la pubblicità. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua con Massimo che ci chiama da Varese. Massimo? Da Voghera. Ci siamo ricordati solo la prima lettera. Come scusa. Fa un ragazzo, come dovrebbe fare un ragazzo a divertirsi senza lo sballo positivo della musica? Perché la musica da sballo, sì, allora uno si lascia andare, si fa volteggiare e si lascia andare. Ed è bellissimo, almeno a me mi diverte molto. Cosa dovrebbe fare un ragazzo oggi per divertirsi, secondo lei? L'avete detto voi. Lo sballo è qualcosa che si insegue dalla notte dei tempi, quindi non lo si nega. E quindi? Ha una sua funzione proprio. Esatto, e forse anche ballare. Esatto. Sì, anche ballare. Però vede, nel ballo tradizionale si balla, si parla e poi si balla quale musica? Cioè, non lo so, è musica. Diverso. Però veramente No, dico, io le do assolutamente ragione. Quello che dico è semplicemente che cambiano i tempi e poi ci sono luoghi dove si balla ancora il liscio, dove si ballano magari dei balli che a lei piacciono di più, e degli altri luoghi dove invece si ballano delle musiche più moderne. E non è che però per questo bisogna chiudere quei luoghi lì e dobbiamo tutti ballare solo la mazurka. No, però vede, a me dispiace pensare che noi dobbiamo dare un tributo a questa cosa di morti. Anche non solo dei ragazzi che muoiono, ma anche delle persone che vengono uccise dai ragazzi. In che senso un tributo? Perché la discoteca intanto ha un'inversione degli orari. La gente deve ciondolare. Veramente mi dicono: guarda, io sto qui, è mezzanotte, non posso ancora andare. Devo ciondolare da un bar all'altro. Sì, questo è vero, l'orario si è molto spostato in avanti. L'orario d'ingresso nelle discoteche, nei luoghi dove si balla. Negli anni, se facessimo una sarebbe proprio una curva, no? Adesso si entra, non so a che ora, alle 2 di notte, non lo so più nemmeno io, forse. Carlo, tu lo sai che si inizia a ballare? Beh, sì, entra tardi, è vero, anche molto la questione tardi. Degli after di cui parlava Giovanardi, che è molto informato sugli after, comunque, che iniziano alle 5. magari ci va. Magari ci va, magari ci va. Ma lui è maggiorenne, magari ci va, ma lui è maggiorenne. No, ha anche detto che conosce molto bene questi luoghi, poi si lamentava del fatto che a 20 centimetri non si riuscisse a parlare. Quindi, insomma, in conclusione, Massimo, non ho capito se ci si può divertire sballandosi con la musica, secondo lei, a 17 anni, a 18 anni, oppure bisognerebbe legarli alle sedie i ragazzi? Non ho capito. No. Guardi, no. Io ripeto, ci si deve divertire. Io contesto proprio la discoteca, questo luogo sintetico. Abbiamo capito. Grazie, buonasera. Grazie mille. Buonasera. Andiamo con i titoli dei tre giornali, non ce l'abbiamo ancora, tra poco arriveranno. Roberto da Latina. Roberto? Pronto? Sì. Pronto? Prego, pronto? Siamo qua, tutto orecchi. Okay. Tocca a lei. Sì. Allora, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Sento un ritorno fortissimo. Deve forse spegnere il viva voce oppure la radio, se c'ha la radio. No, non sono. Noi la sentiamo benissimo, né prego. Né la voce né radio. Prego, noi la sentiamo. Ma è difficile parlare. Pronto? Allora niente, Roberto, ci sentiamo domani. Ottorino dalla provincia di Salerno, buonasera. Sono io, buonasera. Eccolo. Buonasera. A proposito dell'intervento del vostro ascoltatore riguardo la pulizia delle spiagge. Sì. Ecco, sono saltato su, sono riandato con la memoria a tantissimi anni fa, esattamente avendo un figlio ora di 41 anni, ero fidanzato e quindi stiamo parlando della bellezza di oltre 40 anni fa. Io ho tratto spunto dal suo suggerimento, anche se ironico, che diceva: ma lei ha mai fatto squadra? A questo ascoltatore. Sì, sì. Io facevo squadra, io organizzavo delle squadre. Pensi che in quella circostanza, che le voglio descrivere, eravamo in sei, tre maschietti e tre ragazze, una di queste poi l'ho sposata. Bene, voi vi mettete dall'altro lato della spiaggia, un fronte a mare di circa 150 metri. A Napoli? Dove? In Costiera Amalfitana. Costiera. Sì. La nostra Costiera Amalfitana. Ebbene, voi venite incontro a noi e noi a voi, in modo alternato, e così pulivamo, eravamo assorti in questa operazione. Quanto è durata questa operazione? Motoscafo d'altura? Sì. Prego. Sì, sì, sì, no, prego, avanti con il racconto. Motoscafo d'altura, viene giù un signore, parla con un dialetto che poi capisco che è milanese. Mi guarda, chiaramente io non avevo capito. Lui mi dice: sono venuto giù per congratularmi con lei. Era partito apposta perché vi aveva visto. Sì, perché era fuori, era venuto, forse ci osservava, osservava la costa col binocolo, non lo so. Viene lì e ci dice: mi voglio congratulare con lei. Lei è milanese, vero? Per quello che sta facendo. Allora io ci rimango un po' così. Dico: no, non sono milanese, non siamo milanesi, ma facciamo questo tutti i giorni. Ovviamente. Lo abbiamo sempre fatto, lo abbiamo continuato a fare. Quindi lei mi conferma anni. Che 45 anni fa c'era già l'inquinamento sulle spiagge a Salerno. Ma ci rimaneva di tutto, prevalentemente però non era plastica, guardi, erano. Ma lei è un anticipatore del, come dire, del turista, dei turisti spazzini di e oggi. Tra l'altro è molto bella la storia che racconta, perché giustamente quello, no, giustamente per niente, quello del motoscafo dice: voi vi chiede se siete milanesi, siccome il nostro turista spazzino è di Peschiera Borromeo, invece voi avevate iniziato prima già a pulirlo, e quindi complimenti. Ma poi ha continuato a farlo, Torino, ha continuato. Sì, fino a pochi anni fa, e poi abbiamo incominciato anche a rimanere molto soddisfatti, perché cosa facevamo? Ci anticipavamo sulla spiaggia, auto più barca, ovviamente, perché parlo soprattutto di posti raggiungibili via mare. Arrivavamo prima la mattina, un'ora, due ore. Ma lei prima. Scusi, ma adesso ci va ancora a fare queste cose? Oppure no, c'è una certa età? Si riposa. Va bene. Comunque, complimenti, Torino, per quello che ha fatto. Grazie. Sotto al sole. Buona serata. Ciao. Grazie. Titoli della 7. Monica Maggioni designata presidente della RAI grazie all'intesa PD Forza Italia, contrari 5 Stelle. Tra poco il voto in commissione di vigilanza, scrutinio segreto. L'altro consigliere, l'ottavo di nomina governativa, è Marco Fortis. E sul nuovo CDA c'è la prima tegola, però, perché per legge i membri già in pensione possono assumere incarichi solo per un anno e senza retribuzione. È un un buon CDA fatto di professionisti, commenta Matteo Renzi. Il premier incalza intanto anche sulle riforme. Ci sarà da correre ancora più forte per completarle, dice. Annuncia che al rientro delle vacanze si lavorerà subito per il taglio delle tasse all'interno della legge di stabilità. Un barcone con a bordo centinaia di persone si è capovolto al largo della Libia mentre stava per essere soccorso. 25 i corpi recuperati, in centinaia tratti in salvo, ma i morti potrebbero essere molti di più. Primo raid aereo in Siria delle forze statunitensi contro i miliziani dell'ISIS. Intanto il presidente Obama l'aveva annunciato pochi giorni fa, lancia anche un avvertimento al Congresso. Un rifiuto all'accordo sul nucleare iraniano lascia una sola opzione, un'altra guerra, dice, in Medio Oriente. Tragedia nel Bellunese, un nubifragio provoca una frana di terra e fango che si abbatte su San Vito di Cadore, tre le vittime, tra le quali una ragazzina di 15 anni. Altre due medaglie, l'Italia ai mondiali di nuoto di Kazan in Russia, Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri conquistano l'argento nei 200 e negli 800 stile libero. Non ci credeva nessuno, ha detto in lacrime l'azzurra che oggi peraltro festeggia i suoi 27 anni. Primo podio iridato per il ventenne Paltrinieri in una specialità che tra l'altro non è nemmeno la sua, ora può puntare all'oro nei 1500 stile libero. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, c'è un sms, voglio leggerlo, che è un ascoltatore che critica Luca da sarà Cagliari, Catania, non lo so, che critica l'ascoltatore di prima, il quale se la prendeva con le discoteche, era d'accordo con Giovanardi, ma soprattutto diceva: io ci sono stato da giovane, adesso no, non vorrei che ci andasse più nessuno. Che è triste sentire la presunzione di chi non accetta i gusti degli altri per le discoteche dopo essere stato giovane ed esserci, esatto, stato. Questo in effetti è vero. Sì, e soprattutto lui diceva: intanto ci sono stato, ve lo posso dire, vanno, che adesso che fa schifo. A parte che ci vanno anche i quarantenni. Tu ci sei stato quando avevi vent'anni, no? Certo, un cinquantenne che ci scrive, dice: se può servire vi do testimonianza del fatto che ho 50 anni, ho una figlia di 10 anni, vado tutti gli anni a Ibiza 4 giorni per locali e discoteche. Antonio dalla provincia di Lecce, buonasera. Buonasera. Buonasera. Prego. Dunque, innanzitutto complimenti alla radio tutta. Grazie. Dalla mattina alla sera. Ma questa radio, sì, o tutte le radio? Cioè la radio in quanto... No, Radio 24, a Radio 24, perché la seguo dalla mattina alle 5 e mezzo alla sera alle 9. Ah, però. Okay. E quindi... dunque, chiamavo... Come? Chiamavo per quanto riguarda Giovanardi. Sì. No, ma non... in Italia, sì, la pena di tortura non era stata abolita. Non c'è neanche il reato di tortura, guardi, al momento in questo paese. Ah, non c'era neanche il reato. E perché noi dobbiamo... Vorrebbe ripristinarla per Giovanardi, non ho capito. No, la subiamo noi ascoltando Giovanardi. È una, sì, tortura. Ah. Perché per le cose che dice, non lo so, un ragazzo che ha 17 anni balla per due ore sulla stessa mattonella, beh, che succede? Sì, è una stronzata, è un anche fatti suoi. Sì. No, guardi, Giovanardi, il fatto è questo, che non è simpatico, credo che pochi possano definire Giovanardi simpatico, esprime però un punto di vista che sicuramente troverà dei consensi. Beh, in una parte della popolazione, in questo non momento, io, non Carlo, in questo momento di sicuro, anzi, la cosa secondo me è un po' preoccupante, che in questo momento, giocando diciamo sul momento emotivo del fatto che un ragazzino è appena morto, ovviamente uno fa la legge il giorno dopo, dicendo: perché non vietiamo le discoteche ai minori di 18? Questo mi sembra. Sembrate usciti da un film di falsa politica, lì con la Padania, con quella roba lì. Se uno per tre ore balla sulla stessa mattonella, agitandosi senza nessuna relazione, perché se anche urla con tutto il fiato che c'è in gola, che a 20 centimetri da lui non riesce a capire una parola di quello che dico. Antonio, più musica techno, gliel'abbiamo fatto risentire. No, sì. Vabbè, insomma, quindi guardi, io le posso dire una cosa. Sì. Io le posso dire una cosa. Ho 45 anni. Sì. In discoteca sono andato una sola volta. Sì. E comunque non mi è piaciuta. perché non sono il tipo da discoteca. Però nonostante può cambiare discoteca, tra l'altro. Nonostante questo difende il diritto di andarci. È chiaro, perché le persone, i giovani, i maggiorenni, i minorenni, hanno il diritto di andare a ballare due ore sulla stessa mattonella. Cioè lei dice che Giovanardi, e quelli che la pensano come lui in qualche modo vogliono negare di fare agli altri quello che non piace fare a loro. Sì, molto probabilmente sì. Ma con Giovanardi comunque non sono neanche d'accordo per quanto riguarda i casi che sono successi. Di morti nelle caserme dei carabinieri della... Vabbè, sono altre cose. Buona serata, Antonio, grazie. Andiamo con chi andiamo? Io ho 67 anni, vado ancora in discoteca, ballo tutto e non mi sono mai drogato. Un SMS che è appena arrivato. Selina da Milano, buonasera. Ecco, buonasera. Buonasera. Abbassi la radio, senta il telefono, altrimenti ci abbiamo un ritorno, prego. Sì, allora, io chiamo per via di quel signore Spazzino. Sì. Perché anch'io una volta, quando, pochi anni fa ero nel mio paese, io sono polacca, e giocando fuori casa così con tutta la gente di strada, di famiglia, amici, giocando ho detto a tutti: ma perché domani non prendiamo un camion, camioncino di mio fratello, andiamo un po' a Pozzo Duomo a pulire la nostra zona? Così tutti erano un pochino così perplessi per questa idea, ma hanno detto ok, infatti abbiamo preso questo camioncino di mio fratello aperto dietro, camminavamo a Passo Duomo e pulivamo tutta la zona. Ma bello, tutto quello... ma dove? Di che zona stiamo parlando? No, io sono polacca, vengo dalla Polonia. La zona è vicino Mar Baltico, vicino Danzica. E c'era molto sporco lì? No, apparentemente era pulito, però poi guardando bene, avete tantissimo, sporci, ci abbiamo trovato di tutto e di più. Tipo cosa, Selina? Tipo cosa? Bottiglie di birra, cose così. Vabbè, le solite cose che si trovano da tutte le parti. Sì, solite cose, esatto. Va bene, ha sentito il turista Spazzino e si è collegato. Sì. La cosa che voleva dire, prego. No, volevo dire che potrebbe essere anche un'iniziativa divertente, e si potrebbe organizzare anche così, fuori casa, con amici, con quelli che abitano vicino a noi. Fuori casa di sicuro, perché in casa, se no, quello vuol dire fare le pulizie in casa, d'accordo. Ma lei lo fa anche in Italia o lo faceva solo in Polonia? No, purtroppo no, perché qui a Milano un pochino, però io raccolgo, se cammino, vedo la sporcizia, raccolgo, anche se a volte persone mi dicono, ma no, lascia, se tu... Ha ragione, non si faccia convincere. Va bene, Selina, esatto. Complimenti, grazie. Complimenti, ha fatto molto bene a raccontarlo, grazie mille. Traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Poi dice che Expo non serve a niente, poi dice che Expo l'hanno messo lì così per fare il padiglione tedesco, come raccontava ieri Diego Parassole, dove non c'è niente, no? Cos'era? Quello della Bulgaria, dicevo. Bulgaria. E invece serve a qualcosa, perché è un luogo dove vengono presentati, possono trovare interesse i finanziatori, anche delle idee nuove, delle start-up, come per esempio questa start-up italiana, un'idea che serve a prevenire le frane. Si chiama BioSoil Expert, buonasera al suo fondatore Alberto Ferrarese. Buonasera a voi. Allora, in Italia lo sappiamo, c'è sempre la questione delle frane, ogni volta che c'è stata una anche la notte scorsa, e ogni volta che piove succede un casino. Voi che cosa avete messo a punto? In cosa consiste l'idea della sua startup? Allora, noi siamo degli ex biotecnologi, siamo Alberto Ferrarese, Paolo Campostrini e Andrea Zervignani, e ci siamo ritrovati dopo l'università a cercare appunto di trovare delle soluzioni che ci garantissero appunto il lavoro del biotecnologo. Mm-hmm. E praticamente abbiamo fuso le nostre conoscenze in microbiologia e in appunto conoscenze nella parte, diciamo, della botanica, e abbiamo sviluppato delle piante autoctone erbacee che permettano con le loro radici di effettuare una vera e propria chiodatura del terreno. Chiodatura. Quindi, del terreno, cioè delle, esatto, piante che vanno ad ancorarsi con le radici, cosa fanno in profondità? Esatto, con queste radici, con un ampio apparato radicale, riescono a esplorare i primi centimetri di terreno, arriviamo, sì, fino a un metro di profondità, e questo diciamo materiale biologico viene utilizzato appunto per andare a ripristinare una condizione di instabilità. Cioè, l'idea sembra abbastanza, non sembra complicatissima come idea, non ci aveva pensato nessuno prima di voi? No, diciamo che la storia insegna che gli alberi hanno sempre contribuito, insomma, alla difesa del territorio, alla difesa dei versanti. Noi abbiamo usato essenze erbacee che avessero apparati radicali molto forti. In più, la componente, diciamo, biotecnologica è quella dell'abbinamento con dei microrganismi che consentissero, come una sorta di doping naturale, ovviamente senza OGM e quant'altro, l'aumento appunto degli apparati radicali fino a tre volte tanto. Questa massa radicale permette appunto di migliorare una prestazione già presente in natura, quindi è questo, diciamo, il carattere. Cioè, avete innovativo. Delle piante che hanno delle super radici, scusi se banalizzo, esatto, però altrimenti non ci capiamo assolutamente, nulla. Assolutamente sì. E l'avete già sperimentata dove? Sì, diciamo, noi appunto ci rivolgiamo principalmente alle amministrazioni pubbliche, quindi abbiamo già fatto degli interventi per dei consorzi di bonifica, per reti autostradali, piuttosto che per gli ex agenti civili. Quindi lavoriamo su diverse regioni in Italia, tra cui il Trentino, dove siamo appunto nati, piuttosto che in Veneto, in Emilia Romagna, stiamo, diciamo, diffondendo. Ed è troppo presto per poter dire che funziona, oppure avete già dei risultati in questo senso? No, assolutamente no, noi siamo già al quarto anno di attività e stiamo comunque estendendo questa nuova cultura nell'ambito appunto dell'ingegneria naturalistica, e devo dirle che stiamo ottenendo dei buoni riscontri da cantieri già a 3-4 anni dalla posa, quindi sono ottime prestazioni, ovviamente a un costo ridotto e da una parte, dal punto di vista, diciamo, dell'aspetto paesaggistico, assolutamente vincente. Perché non ci sono palizzate, non ci sono costruzioni, dice me, non c'è nulla, ci sono solo delle piante. Esatto, assolutamente. Ma per capire, sarebbe potuto utilizzare anche in zone, per esempio, come Cadore, dal punto di vista proprio idrogeologico come zona, oppure in zone meno difficili? No, assolutamente. Allora, il discorso di Cadore purtroppo è una situazione veramente eccezionale, dove la nostra tecnologia avrebbe comunque supportato sicuramente altri sistemi, quindi su quello non si poteva fare assolutamente niente solo con la nostra tecnologia, sono sincero. In altri contesti sicuramente l'innervimento permette di una prevenzione su alcune situazioni. Okay, quindi da parte nostra, sì, diciamo, la parte di consulenza e la parte di visione di cantiere deve essere assolutamente supportata anche da altre tecnologie legate all'ingegneria naturalistica. E il passaggio in Expo ha portato, avete già dei finanziatori, com'è stato diciamo questo aspetto, diciamo, della crescita della vostra azienda, che comunque alla base ha una buona idea, avete trovato porte aperte? Assolutamente, beh, noi nasciamo da un premio di impresa sviluppato da Trentino Sviluppo, quindi siamo nella provincia autonoma di Trento. All'interno poi della compagine societaria, che è nata appunto nel 2012, abbiamo comunque già dall'inizio intrapreso una collaborazione con dei business angel sempre del Trentino che ci hanno supportato e sono attualmente i nostri soci. Quindi abbiamo avuto sia il finanziamento dal punto di vista pubblico che privato, e poi ovviamente arrivati a mercato siamo assolutamente in grado di sostenere. Quindi, insomma, cosa sono i business angel, che non conosco? I business angel sono investitori privati che decidono di investire su idee ad alto rischio imprenditoriale e per portarle poi ovviamente a costituire aziende e poi ad avere un mercato, insomma. Ok, no, no, siccome ho in mente i City Angel, ma evidentemente non c'entrano niente. No, niente, esatto. No, no, no, è un'altra cosa. È un altro gruppo. Esatto. Grazie Alberto, complimenti. Grazie mille. Andate grazie avanti mille. Così, buona trovate, serata. Sì? Ci trovate al terzo piano di Palazzo Italia. Padiglione Italia, adesso. Sì, l'avremmo detto appena attaccavi. Una delle perfetto. Eccellenze italiane, bravo, ciao, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Buona serata. Insomma, hai visto che la grande esposizione universale a qualche cosa serve? A dare una mano anche a queste persone qua che, insomma... Infatti sono curiosissimo perché io dopo domani ci vado a Expo e quindi finalmente andrò anche a trovare questa Expo Startup al terzo piano del Padiglione Italia. Torniamo con gli ascoltatori. Giuseppe da Roma, buonasera. Buonasera, non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Non essere, io ballavo il ballo del mattone, ma che ne sa Giovanardi? Ma che ne sa Giovanardi? Fantastico. L'unico dramma è ballare sì. Due ore sulla mattonella, che ci viene una certa incordatura a noi uomini terribili, vero? L'incordatura cosa sarebbe? Il mal di schiena? No, dall'altra parte. Esatto. Divertente, parla di cose che non conosce, due ore sulla mattonella, ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma Giuseppe, perché? Me lo dica lei, perché Giuseppe? Questo paese è cambiato, mi eleggono un CDA con quattro pensionati, ma ci voleva tanto poco. Io però guardi, anche il Movimento 5 Stelle c'è cascato. È un monologo di chiusura stupendo. Aiutatemi! Ma possibile che non riesco a percepire un po' di modernità in questo paese? Qui il problema serio era, ma il servizio pubblico esiste, cioè, ma io dico mettiamo la mano in mano a un'authority indipendente oppure privatizziamola, ma come mai non si riesce a far ma quanti anni ha lei? Se possiamo chiederglielo rimane rottamato. Quanti io anni ha? Parlo, voi siete più giovani, io che devo fare? Ci dice quanti anni ha? Io mi consolo caca. Ma non sente? No, non te lo vuole dire, non te lo vuole dire sì. Quanti anni ha? Cosa? Quanti anni ha? 60, 60. Ah, perfetto. Ah, parlava in una maniera come se ne avesse 100, diceva no. Voi, giovani. Ah, no. Perfetto, perfetto. Io ho detto una cosa precisa. Mi aspettavo un paese diverso. E pensavo tra non, di me. Non era solo. 20 anni, figurati quando avrò 60, questo paese cosa sarà. E ridevo, godevo. Dicevo, sarà una cosa meravigliosa. Intanto andavo. Lei sarà illuso un po' troppo. No, e il prete mi diceva sempre: non toccarti, che San Luigi piange. Ma... io so che piange, ma. Che ci posso fare? Vabbè, ma a parte San Luigi, adesso, allora, però, per non lasciarci con questa cosa di mestizia per un paese ormai perso, io le vorrei dire: vedrà, pensi che paese. Stupendo sarà quando avrà 90 anni. Sarà un paese stupendo. E che ne so, un po' di ottimismo. No, che a 90 anni, vero? Noi veniamo da Roma, quindi. Però un po' cambiato anche per me. È possibile. Godè un pochetto. Senti ancora dire come facciamo da ragazzi: non buttate le cicche per cortesia sulla sabbia. E la sera noi facevamo un gioco meraviglioso. Prendevamo la sabbia con i piedi e intanto sollevavamo le cicche. Però... Solo che no, non ho capito cos'è che facevate. Non ho capito, Giuseppe. Giuseppe, no, proprio non nasco. Giuseppe? Giuseppe? Cambierà. Boh, ecco, ci canti davanti, anche così, cambierà fantastico. E la chiudiamo così. Comunque, le cicche in spiaggia, no, le cicche ci mettono 5. Io sono un fortissimo fumatore. Non però le cicche in spiaggia ci mettono 5 anni per degradarsi e quindi assolutamente quindi... non vanno buttate in spiaggia. No, ho capito. Però, Giuseppe, non ho capito lei cosa faceva coi piedi nella sabbia. Alzava le cicche. Più di 2000 posacenere, quelli tascabili. Sì, non è male. Insomma. No, infatti, la campagna che si chiama Mare Vivo. Buona serata. Ma il mare non vale una cicca. Esatto. Arrivederci, esatto. Arrivederci. Su 450 spiagge sono stati consegnati i posaceneri tascabili da spiaggia. Andiamo con un ultimo ascoltatore per chiudere. Andiamo con chi andiamo? Davide da Monza. Buonasera. Buonasera. Sì. Io volevo intervenire in merito alla questione Cocorico. Però volevo parlare di un altro aspetto che non sia solo quello della chiusura della discoteca. Ci sono 30 secondi, da qualunque aspetto lo prende. Allora ascolti, io nella vita faccio il DJ. La colpa non può essere demonizzata una discoteca, ma è una questione di cultura. Io sono un DJ che lo fa da tanti anni, quindi io ho sempre sostenuto che la cultura nei ragazzini va messa fin quando vanno a scuola, perché tu un ragazzino di 16 anni, se non gli viene spiegato qual è la pericolosità, mi sente? La sentiamo. Sì, scusi, non la sentivo più io. Non viene, chiuda perché capire, dobbiamo chiudere. Capire, sì. La pericolosità di questa pastiglia, continueranno a farlo, quindi il problema non è il Cocorico o un altro locale. Il problema è che bisogna che nella cultura, io lo dico da tanti anni, va fatta a scuola, quando sono già alle medie, perché le elementari sono un po' troppo piccolini, ok, ma alle medie va comunque insegnato, va fatto capire, va bene, qual è la a scuola, pericolosità. Tutto deve cominciare perché a scuola. Grazie. Colpa, buona serata, dobbiamo chiudere. A domani! A domani! Ciao, buona serata! Io non ci sono perché sarò a Cesana Torinese a presentare Fossi in te, insisterei alle 21:15. Invece io ci sono, 18:20:30, si può fare. Ciao!